Avvocato del GLF, anche Elio Germano e Daniele Vicari. Sì. Ci sarà una persona adesso che raccoglierà anche gli interventi. Chi vuole? È caduta la luce. Chi vuole intervenire? Chiaramente ci sarà una parte dove ognuno potrà porre delle domande. Speriamo che, insomma, no, siamo veramente tantissimi, quindi cerchiamo di limitarle e magari di unirle. E niente, io ho avuto qualche problema, evidentemente, avendo vissuto la Diaz di persona, rivedere queste immagini, sia quelle di Black Bloc, sia quelle di Black Bloc che ovviamente il film Diaz mi ha fatto rivivere delle cose che veramente ero pronto a dimenticare. Se c'è attenzione, io non so se mi si sente o no. Non mi si vede, ma è uguale. Accendiamo i neon. Accenderemo questi neon. Volevamo fare una luce un po' più fighetta, ma adesso accenderemo invece il neon. Quindi, vabbè, al di là, tanto dobbiamo. Non c'è poco da vedere per adesso. Adesso c'è più da sentire. Quindi questa. Eccola. Sì, forse. No, va bene. Nemmeno quella funziona, va bene. Ecco. Oh. Era meglio il buio. È stata un'esperienza tosta veramente rivedere queste immagini per noi che ci siamo trovati a viverla direttamente. E quello che è stato, questa cosa è nata, questo incontro nasce così prima dalla rete, da un po' di discussioni che erano partite fra alcuni di noi, uno e Fabrizio, proprio perché ci rendevamo conto che da parte di molte persone si stava cercando di colmare un po' le lacune che c'erano state nostre, dei movimenti, della politica, cercando nel film quelle risposte che magari noi non eravamo riusciti a dare. Questo un po' ci ha colpito, perché pensavamo che in fin dei conti avremmo dovuto prima fare i conti con noi stessi, con la nostra storia, prima di prendercela poi e trovare tutti i difetti di un film. Questo, insomma, ci ha spinto a cercare Daniele e gli altri proprio per porgli un po' di domande, ma per sfruttarli, ecco, più che altro, proprio perché ci danno l'occasione di riprendere un discorso che si è interrotto quasi subito dopo il 2001 e che comunque ha avuto dei percorsi che non sono riusciti a riempire i nostri vuoti. Io non penso che questa serata riuscirà a riempire quei vuoti, assolutamente. Infatti quei vuoti andranno riempiti nel tempo. Adesso ci saranno diverse scadenze di cui anche parleremo nei prossimi mesi, in cui sarà possibile mettere a frutto questa occasione di ripercorrere la nostra memoria e darci forse qualche risposta in più. Non vi tedierò oltre e passo la parola a Fabrizio e dopodiché cominceremo, insomma, a stimolare i nostri ospiti. Allora, ciao, mazza quanti siamo, è anche abbastanza sorprendente tutta questa gente. È evidente che questo film ha avuto un grossissimo merito, ossia quello di riallacciare un po' di contatti e comunque farci tornare a parlare, a riflettere, a discutere anche a livello singolo, individuale di Genova. Se dovessi parlare di Genova, e vi parlo della mia esperienza in quanto attivista di supporto legale, che era quel manipolo di persone che hanno supportato gli avvocati per la prima fase processuale per quanto riguarda Diaz, Bolzaneto e il cosiddetto processo ai 25 compagni, che poi è il processo che ci sta a cuore e di cui andremo a parlare questa sera. Dovremmo fare un passo indietro abbastanza breve, di meno di un anno, ossia quando ci siamo ritrovati a Genova per il decennale appunto di Genova 2001, e quello è stato un po' paradigmatico. Ci siamo ritrovati in pochissimi, ci siamo ritrovati con delle iniziative organizzate da una parte dell'ex Social Forum, iniziative che tendenzialmente erano reducistiche, sembravamo i reduci da chissà quale guerra, sembravamo le vittime di chissà quali violenze, di chissà quali soprusi, che indubbiamente ci sono state e nessuno le nega, ma non c'era nient'altro. C'è stato un discorso sulla memoria che in questi 11 anni, nonostante poi scrivessimo che la memoria era un ingranaggio collettivo, ma poi nessuno di noi è riuscito a far parte di quell'ingranaggio, nessuno di noi è riuscito neanche ad oliare quell'ingranaggio. Ci ritroviamo con una memoria 11 anni dopo, anzi, che fondamentalmente è dettata dai tempi dei tribunali, è scritta dai tribunali. Esiste la memoria del processo Diaz, esiste la memoria del processo Bolzaneto, esiste la memoria, la storia riguardo l'omicidio di Carlo Giuliani, non esiste la memoria riguardo i 25 ormai rimasti in 10 che andranno in Cassazione per il processo, e ve ne parlerò tra un attimo a luglio, non esiste nient'altro, e onestamente è stato un po' poco, responsabilità probabilmente che andrebbe condivisa, che andrebbe anche analizzata o semplicemente ridiscussa, comunque è una responsabilità di tutti quei movimenti che sono stati a Genova, perché non esiste qualcuno più responsabile e qualcuno meno responsabile, è ora anche di guardarci in faccia riguardo queste cose. Riguardo quella storia è importante anche andare a raccontare quello che ci ha portato al processo Diaz, perché anche in questi giorni in cui il film ha avuto anche una enorme eco, a dire il vero un'eco che si è spenta anche abbastanza velocemente, un paio di settimane così, però ha avuto la forza di rimettere al centro almeno noi che testimoni di Genova, come scrivevamo subito dopo quel 21 luglio, almeno rimetterci in moto. C'era un fatto che noi forse probabilmente, al di là di tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, che manca, che fallisce sistematicamente. Al momento che noi lasciamo la memoria ai tribunali, noi abbiamo perso. Genova non è soltanto la Diaz, oltretutto la Diaz, poi ce lo spiegherà l'avvocato Romeo, che si occuperà della Cassazione sia per quanto riguarda il processo Diaz, sia per quanto riguarda il processo ai compagni, alle compagne. È un processo che nasce anche in maniera abbastanza casuale, nasce in maniera fortuita, nasce perché colui che raccontò in maniera abbastanza così innocente di aver trovato quelle Molotov non all'interno della scuola Diaz, bensì durante un sopralluogo a Corso Torino dietro una siepe. Nasce anche dal fatto che subito dopo la tesi del famoso poliziotto accoltellato durante la rissa, l'aggressione che c'è stata all'interno della scuola Diaz da parte dei manifestanti nei confronti delle forze dell'ordine, erano due coltellate abbastanza ridicole che al primo incidente probatorio è saltata un po' tutta quanta la difesa. Nasce casualmente perché fondamentalmente la storia di questo paese, ma non soltanto, credo, comunque la storia del nostro paese ci ha insegnato che le forze dell'ordine difficilmente processano se stessi. Ci sono degli aneddoti riguardo il processo Diaz che, se non fossero tragici, sarebbero comici. Si parla di un verbale firmato da 27 persone, ancora oggi, 11 anni dopo, manca una firma, il riconoscimento di una firma. Ci sono voluti anni per risalire a tutti i firmatari di un verbale di polizia, non di una scollettata tra amici, ed è ancora oggi ne manca una. C'è un processo, c'è un fatto ancora più comico, parliamo dell'identificazione di un agente che si è distinto all'interno della scuola Diaz in maniera abbastanza particolare. Parliamo di un poliziotto alto, biondo, in borghese con una coda di cavallo, anche quello ci sono voluti anni per riconoscere, un poliziotto che poi si è scoperto che faceva parte della questura di Genova, neanche veniva dall'Islanda o dalla Norvegia, era uno di loro, per far capire che le forze dell'ordine in questi anni non soltanto hanno coperto, ma hanno sistematicamente messo i bastoni tra le ruote a chi ha cercato di ricostruire una verità giudiziaria. E ci ritroviamo 11 anni dopo con 10 persone che rischiano in Cassazione di prendersi 98 anni più qualche mese di carcere totali. Parliamo di pene che vanno dai 7 anni fino ai 15 anni. Parliamo di pene, fondamentalmente, anzi parliamo di una pena che poi è l'asse portante di tutto quanto il processo ai 25, che poi sono diventati appunto 10, che è il reato di devastazione del saccheggio. Un reato su cui noi in questi ultimi anni non abbiamo mai ragionato, non abbiamo neanche, siamo stati incapaci anche di fare una campagna riguardo, anche una campagna che fosse giuridica, poi ce lo racconteranno, perché questo è un reato che fondamentalmente non era mai stato dato per nessun reato di piazza, un reato che fa parte di quel codice che è il nostro codice penale, che è il retaggio del codice Rocco, che è un codice che viene dal fascismo. Non era mai stato dato a nessun manifestante, neanche negli anni 60, neanche negli anni 70, quando gli scontri di piazza erano sicuramente più forti e più duri di quelli che sono successi a Genova. Bene, ora abbiamo 10 persone che probabilmente rischiano di ritrovarsi a luglio o i primi d'agosto, quantomeno, visto che la Cassazione è per metà luglio, di ritrovarsi nelle nostre patrie galere, e ci si ritroveranno perché in questi 11 anni tutti quanti noi non siamo stati neanche capaci di farci carico della loro storia, che poi fondamentalmente era la nostra storia. Il reato di devastazione e saccheggio, poi c'è gente più brava di me e ne parlerà anche meglio, è un reato abbastanza particolare, perché è un reato che prevede anche la compartecipazione psichica, chiamiamola così, lo direbbe Luther Blissett, una cosa del genere, però è un reato in cui tu basta far parte, basta essere in un determinato momento, in un preciso spazio dove magari c'è gente che sta danneggiando qualcosa, e automaticamente si fa parte, appunto di quel gruppo di persone che sta danneggiando, e automaticamente puoi ritrovarti accollato questo reato che poi in questi ultimi 11 anni sistematicamente è stato introdotto, è stato dato, probabilmente perché queste 10 persone che sono rimaste sotto processo, le ultime 10 che sono rimaste sotto processo, sono 10 individui legati a nessuna area politica particolare, forse è questo, però è anche vero che ci ritroviamo 11 anni dopo con dei processi, e parliamo del 15 ottobre, a ragazzi dei 20, 21, 22 anni, 23 anni, che si sono, 19 anni, che si sono fatti travolgere dagli eventi e hanno magari anche partecipato e hanno fatto quel che hanno fatto, qualsiasi cosa abbiano fatto, che si stanno prendendo 5 anni, e parliamo di 5 anni nonostante il rito abbreviato, e parliamo di un reato, appunto, una pena che va appunto sopra i 5 anni. La storia di Genova è una storia particolare, in questo oggi ci ritroviamo qui magari per riparlarne, per discutere, ci sarà sicuramente gente che vuole fare delle domande a chi ha lavorato a questo film, e facciamolo, confrontiamoci e parliamone, ma soprattutto cominciamoci a mettere nella nostra agenda politica, mentale, facciamo quello che ci pare, non lo so, però cominciamo a pensare che noi abbiamo una scadenza importantissima intorno a metà luglio, che è la Cassazione per il processo ai 10 tra compagni e compagne che sono rimasti. Secondo me questo è un punto fondamentale, ma non soltanto per queste 10 persone che rischiano di trovarsi in carcere e per cui dovremmo sentirci in qualche modo un po' tutti responsabili, ma perché se ci stanno andando loro a ruota rischiamo di andarci, come ci sono andate in questi ultimi anni anche tante e tanti di noi. Non la sto tirando a nessuno ovviamente, però i fatti parlano altro. Io ora qui mi interrompo e vorrei dare sull'ultimo spunto, poi magari parlerò anche del film se ce ne sarà bisogno o no. Il film di Vicari, che non giudicherò adesso, Vicari, scusami, chiedo scusa, sono abituato così, il film di Daniele Vicari, no, mi hanno detto che ci tieni, dunque io vi atterrò, il film di Daniele Vicari, dunque tenetelo a mente anche questo, è un film che, bello o brutto, vi sia piaciuto o non vi sia piaciuto, comunque rimane un film. Pretendere che Daniele scrivesse un film e coprisse tutto quello che noi non abbiamo fatto in 11 anni mi sembra molto ma molto pretenzioso. No, Visto che abbiamo introdotto, scusatemi, abbiamo fatto un cenno sui processi, qui abbiamo Francesco Romeo che si occuperà della Cassazione, sia del processo Diaz, sia del processo appunto ai 10 tra compagni e compagne, e credo che prima di aprire un qualsiasi proprio discorso ci faccia bene, ora che siamo tutti quanti insieme, fare un punto proprio processuale su entrambe le cose. Sì, buonasera a tutti. Allora, intanto c'è da correggere uno dei passaggi finali del documentario Black Bloc. De Gennaro era stato condannato in appello, ma la Cassazione a novembre scorso ha annullato quella condanna. Quindi, diciamo, quel processo è terminato a novembre con la sentenza della Cassazione che ha annullato e ha praticamente assolto sia De Gennaro che Mortola, che erano accusati di aver indotto il questore Colucci a fare falsa testimonianza al processo Diaz. Di quella sentenza non si conoscono ancora le motivazioni. Da novembre a ora la Cassazione non ha avuto modo ancora di rendere note, più vicino? Non ha avuto ancora modo di rendere note le motivazioni per le quali è stata cancellata quella sentenza di condanna della Corte d'Appello di Genova. Dall'11 al 15 di giugno ci sarà in Cassazione il processo Diaz, una intera settimana per discutere di questa vicenda processuale. È un fatto rarissimo nella storia della giustizia di legittimità, così si definisce il giudizio di Cassazione della Repubblica Italiana. Quindi diciamo che il 15 anche la vicenda Diaz troverà la parola fine in Cassazione, mentre invece il processo dei 10, ormai sono rimasti 10, erano partiti in 25 come imputati per i fatti di strada, per la cosiddetta devastazione e saccheggio, vedrà la sua fine anche questo in Cassazione il 13 di luglio. Il risultato di questi processi, sia quello Diaz che quello dei 10 ormai rimanenti, può avere, diciamo, due alternative. La sentenza può essere, le sentenze possono essere confermate oppure annullate. In caso di annullamento si possono presentare due sottopossibilità. L'annullamento secco, che come il caso De Gennaro, che concluderebbe comunque la vicenda, o l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Genova. In quel caso si ripeterebbero i processi di appello. Entrambi i giudizi hanno questa particolarità. Per quello che riguarda la Diaz, c'è addirittura uno dei ricorsi che viene fatto direttamente dalla Procura Generale per chiedere che i reati di lesioni, per i quali sarebbe ormai maturata la prescrizione, vengano rivisti e riletti come reato di tortura e quindi imprescrittibile, per evitare che ci sia, diciamo, la dichiarazione di prescrizione, che è una sorta di dichiarazione di impotenza da parte della giustizia che non riesce a emettere una sentenza. Questa questione è quella più complicata che si presenterà dal punto di vista giuridico nel processo Diaz, perché se la Corte di Cassazione dovesse accoglierla, il processo finirà alla Corte Costituzionale e dopo di nuovo a Genova per celebrare nuovamente il giudizio d'appello. È un passaggio complicato e difficile, perché in Italia il reato di tortura non esiste, ma tuttavia, esistendo ed essendo previsto dalle convenzioni europee, dovrebbe avere, come dire, la lettura della convenzione europea dovrebbe avere immediata applicazione nel nostro ordinamento. Staremo a vedere che cosa verrà fuori. Bisogna dire che questa sentenza presenta qualche pasticcio, perché i giudici d'appello evidentemente hanno fatto un po' dei pasticci, hanno dimenticato alcune cose, ne hanno messe altre, e questo rende un po' debole la sentenza e la apre alla possibilità che le difese degli imputati possano ottenere dei successi anche parziali con il rinvio di nuovo davanti alla Corte d'Appello di Genova per alcune questioni da ridiscutere. Il processo per devastazione e saccheggio invece era partito con 25 imputati e c'è stato anche lì un passaggio un po' complesso. In un primo momento questi 25 sembravano una massa indistinta, è vero anche quello che ha detto prima il compagno mi ha preceduto sul fatto che chi è rimasto impigliato probabilmente lo è in parte perché non ha famiglie politiche di appartenenza, è vero pure che insomma quel processo è servito nell'economia dei processi di Genova anche a controbilanciare Diaz e Bolzaneto, nel senso che da qualche parte si doveva fare un contrappeso anche processuale. Questa è la mia idea, però diciamo che lo svolgimento dei fatti processuali anche ci porta in quella direzione. Contrappeso pesantissimo, perché poi il processo di secondo grado si è concluso con pene durissime, che se noi le confrontiamo con i fatti e con l'orrore che abbiamo visto documentato in questo documentario, scusatemi per la ripetizione, però documentare è un'attività importante e Vicari lo fa anche benissimo nel film Diaz. Se paragonato con l'orrore che abbiamo visto, che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato e vederlo per me che conosco quegli atti e a memoria ormai è sicuramente sempre un colpo durissimo. Suona strano, è fuori luogo che per una vetrina rotta si riescano a dare 10 anni di carcere e che per questa replica di campi di concentramento che sono stati Diaz e Bolzaneto le pene vanno quasi tutte prescritte o al massimo arrivano a 4 anni. Non perché uno debba fare, come dire, la legge del taglione, però se ci deve essere una proporzione tra quello che è successo, sicuramente dei fatti di danneggiamento, perché questi sono quelli che sono avvenuti per strada a Genova, slegati da qualunque preorganizzazione o preordinazione, sicuramente è qualcosa che è pesante, che fa sentire lontana la giustizia da quello che poi è realmente accaduto per strada a Genova e dentro Diaz e dentro Bolzaneto, perché noi secondo me questo legame lo dobbiamo tenere e lo dobbiamo evidenziare. Ora il reato di devastazione e saccheggio, per non farla lunga, insomma ha una storia un po' complessa nella nostra storia giudiziaria repubblicana e viene dal codice Rocco, anzi fa parte di quello che è ancora il codice Rocco, perché in Italia vige il codice Rocco con qualche modifica, che prevede tre tipi, diciamo, di questa famiglia di reato che possiamo, come dire, per rendere un'idea, possiamo dire che è una scala con tre gradini. Al gradino più basso ci sta il danneggiamento, nel secondo gradino è la devastazione e saccheggio, il terzo e ultimo gradino è la devastazione e saccheggio finalizzati all'eversione dell'ordine democratico. Questo reato, giustamente si diceva, non ha quasi mai avuto applicazione nella nostra storia repubblicana giudiziaria. È stato usato di recente per le vicende di stadio, quindi ricordo un caso emblematico da cui prese le mosse e poi venne via via utilizzato, è un derby Avellino-Napoli in cui morì un tifoso e lo stadio venne letteralmente distrutto. Ecco, da quel momento in poi, da ultimo anche è stato utilizzato dopo la morte di Gabriele Sandri per quello che è accaduto in città a Roma, da quel momento in poi ha trovato sempre più applicazione. Ma il punto è che perché si abbia devastazione, insomma, rinforzando al significato letterale del termine, bisogna che qualcosa o più cose siano distrutte interamente. E questo non è accaduto a Genova se non in rarissimi casi. E questa distruzione dovrebbe avere un'estensione e una vastità tale da interessare interi quartieri, intere zone di aree urbane. oltre ad avere dietro una programmazione. Tutte cose che nel processo dei 10 non ci sono e che poi verranno discusse, che discuteremo in Cassazione, staremo poi a vedere. Certo, le premesse non sono delle migliori, è giusto essere assolutamente realistici e nell'essere realistici ci sta che bisogna avvicinarsi a questo processo con la massima cautela. Tuttavia potrebbe anche essere uno snodo in cui si riesca, come dire, a rimettere le cose per il verso giusto. Posso fare una battuta, poi prendiamo parola tutti quanti. Diciamo che se potessimo fare pari e patta, annullare Diaz, annullare il nostro processo, credo che qui dentro tutti lo faremmo, ma il problema è che pari e patta non ce lo fanno perché loro comunque vorranno vincere pure dentro i tribunali, questo è poco ma sicuro. Dunque prepariamoci e anzi organizziamoci in modo che non si arrivi alla Cassazione nell'indifferenza come è successo in tutti questi mesi. Anni, anzi non mesi. Io inizierei a fare una domanda a Daniele, che questo film, il tuo film ha ricevuto un sacco di critiche, no? Dappertutto, e tu lo sapevi dall'inizio, no? che questo sarebbe avvenuto, so che ne parlavi con Procacci proprio in fase di sceneggiatura, consapevole che questo avrebbe ricevuto critiche da destra e da sinistra, ma fra tutte quelle che hai ricevuto, e sono sicuro che oggi poi insomma ce n'è qualcuna che ti convince? Cioè c'è quella cosa che dici sì, oggettivamente riguardando il film questa cosa la potevo fare in un'altra maniera? Ma allora io penso, uno, che è vero che questo film non racconta il G8, cioè non c'è dubbio che questo film non racconta il G8, è intitolato Diaz e racconta la vicenda della Diaz con l'annesso orrorifico della vicenda Bolzaneto, che in qualche modo nella lettura mia tutta personale che do di questo evento è una diretta conseguenza, non è semplicemente un prolungamento, è una diretta conseguenza di una organizzazione, diciamo, della repressione che era stata preordinata in qualche modo, no? E si vede dall'organizzazione che c'è dentro la DIA, dentro la Bolzaneto. C'è un'organizzazione chiara dove c'è chi comanda, chi fa le cose, le persone vengono prese in un certo modo, portate in un certo altro e così via. Quindi è vero che non racconta il G8 e sono completamente d'accordo con queste critiche. È vero che non si avventura nel fare analisi politiche o politologiche di tutto quello che è successo a Genova, anche perché io sono un regista ma ho sempre fatto politica la mia vita, e se ho pensato fin da subito che se avessi preso questa strada avrei quantomeno, tanto per scherzare, dovuto cominciare con i fatti di Napoli, perché a Napoli, diciamo, è successo qualcosa che noi anche lì non abbiamo ancora capito bene, ma il fatto che ricorrono gli stessi nomi di poliziotti condannati per la caserma Raniero e la vicenda Diaz già dovrebbe dirci qualcosa rispetto a questo tema. Quindi quantomeno è vero che il film non fa un'analisi politica e politologica, perché credo che avrei dovuto fare un escursus storico che secondo me in un film non ci sta. A me i film che, come esperienza di spettatore, i film, diciamo, che sono un unicum, durano 2 ore e che raccontano intere epoche storiche, non mi hanno mai convinto. Ma ha convinto Aimat. Sono 24 film. E non lo dico per scherzare, cioè Aimat, il regista, gli autori di quel film, volendo raccontare un'intera epoca storica, lo sviluppo di un intero paese, hanno elaborato una strategia narrativa, diciamo, ispirata alla serialità televisiva, facendo del grande cinema, e in quel modo, raccontando singoli episodi, personaggi che passano da un momento all'altro della storia della Germania, alla fine di questa esperienza straordinaria di visione, che secondo me non in tanti abbiamo fatto, ma chi l'ha fatta ne è uscito veramente, diciamo, entusiasta, cioè se si vedono i 24 film tutti in fila ci si rende conto che quella persona è riuscita a fare un'opera di storico, che ha raccontato in termini storici un intero periodo. E quindi è vero, sono d'accordo con le critiche che dicono: ah, non hai messo. Poi sono assolutamente d'accordo con le critiche che delle persone che dicono: ah, non hai messo i nomi, perché è vero, non ci sono i nomi, cioè è un fatto, no? Così come è vero che non ho raccontato che cosa è successo durante l'irruzione della polizia dentro il Media Center, non c'è dubbio, non l'ho raccontato, non ho raccontato quella parte della storia. Così come è vero che non ho raccontato come si sviluppa il movimento che noi abbiamo chiamato No Global o altermondialista, perché secondo il mio parere, per poterlo raccontare decentemente, visto che le idee che professava e per fortuna professa ancora in quello che ne è rimasto in giro per il mondo, sono talmente tante e complesse le componenti di questo movimento che quantomeno avrei dovuto cominciare da Seattle, perché altrimenti, no, rappresentare due assemblee in cui delle persone parlano un quarto d'ora di quello che pensano del mondo, penso che nessuno spettatore al mondo avrebbe sopportato scene di questo genere. E insomma, io posso continuare, non c'è dubbio che questo è un film che racconta quello che racconta. E infatti, diciamo, quando uno va al cinema si confronta con quello che un film racconta, non con quello che un film non racconta. E credo che le cose che abbiamo raccontato con questo film continuiamo a fare finta, diciamo, che non siano accadute. Prima di tutto c'è una parte del movimento che fa finta che non siano accadute. Io personalmente, diciamo, non come cineasta ma come cittadino, diciamo, del mondo, ho sempre sentito che dentro la scuola Diaz e a Bolzaneto siano accadute delle cose che non sono semplicemente fuori dal diritto, ma sono fuori dalla civiltà, cioè sono delle cose che noi talmente efferate che noi non riusciamo a digerire. Una parte della rimozione a cui accennavi tu prima, perché secondo me il termine psicanalitico è giusto in questo caso, rimozione, una parte di questa rimozione è dovuto al fatto che sono orrende queste cose. Vi faccio un esempio. Io quando ho cominciato a leggere gli atti dei processi, io non so come fanno gli avvocati, penso un po' come i medici, cioè il medico che opera le persone tutti i giorni può anche fare le battute con l'infermiere vicino, scherzarci sopra, no? Perché non sta facendo una cosa drammatica, sta facendo un'operazione, è il suo mestiere, si può permettere anche di scherzarci sopra. E penso che gli avvocati più o meno, e anche i PM, insomma i giudici, entrino talmente tanto dentro la materia che per sopravvivere devono in qualche modo anche così ironizzarla, no? E quindi esorcizzare il dolore, no? Metterlo fuori di sé. Ma io non sono un avvocato, io non sono un giudice. E quando ho cominciato a leggere gli atti del processo Diaz e poi quelli di Bolzaneto, io ho smesso di dormire, perché mi sono fatto una serie di, come posso dire, di domande che hanno messo seriamente in discussione la mia personale appartenenza a una, anche se discutibile e vaga, forma di democrazia. Ho fatto molta fatica, sinceramente. Per esempio, per trovare degli esempi narrativi che mi aiutassero cinematograficamente a pensare Bolzaneto, io ho dovuto fare riferimento ai campi di concentramento, perché non c'è niente del genere nel cinema occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono giusto alcune cose accadute nei paesi sudamericani e in alcuni paesi asiatici, e alcune cose sono state raccontate. Delle cose così organizzate all'interno di luoghi pubblici gestiti dalla forza pubblica, cioè da persone in divisa che dovrebbero rappresentare in qualche modo la legalità di un paese, ecco, non c'è una nostra memoria collettiva. I fatti di piazza anche tragici come quello che ha riguardato Carlo Giuliani, sono dei fatti inaccettabili secondo me, ma che in qualche modo io come cittadino razionalizzo in questa maniera, cioè sono fatti di piazza. Nei fatti di piazza può succedere di tutto, ci può scappare anche il morto, non dovrebbe, è una cosa orrenda, ma nelle dinamiche di piazza, durante gli scontri eccetera, può succedere anche questo. Quello che personalmente trovo ancora adesso che ho fatto il film, l'ho presentato, ne ho parlato mille volte, trovo indigesto e credo che trovano indigesto anche gli spettatori, è il livello di violenza che si è sviluppato in questi luoghi, la ripetitività di questa violenza, l'intenzione denigratoria, cioè questo tipo di violenza tende a spogliare l'individuo della propria identità, della propria dignità. Questo livello di violenza, questo tipo di violenza è qualcosa che in qualche modo noi in questi 10 anni abbiamo rifuggito. A un certo punto abbiamo anche smesso di parlarne. Uno dei motivi, non l'unico, ma uno dei motivi per cui si è delegato, secondo me, agli avvocati la gestione di questa cosa orrenda è la difficoltà di averci a che fare. Infatti il film che avete appena visto è figlio di questa dinamica, cioè Carlo Bachschmidt ha concepito questo film lavorando insieme a me su Diaz. Quando io ho conosciuto Carlo, e l'ho conosciuto prima di cominciare il lavoro su Diaz, perché io volevo fare un altro film su Genova che non sono riuscito a fare, con Carlo abbiamo cominciato a parlare di questo suo progetto. Carlo non è un regista, è un architetto che ha dedicato la sua vita ai processi, sostanzialmente. Questi 10 anni Carlo ha fatto solo quello, ha fatto anche le consulenze delle parti offese nei processi, e in questo modo ha accumulato una competenza altissima su questi eventi, fornendo anche delle chiavi di lettura molto interessanti sui video che sono stati realizzati da ogni parte, diciamo dalla polizia al movimento, durante i fatti di Genova. E a un certo punto però ha anche cominciato a conoscere le persone, è nata dentro di lui l'urgenza di raccontare le storie di queste persone, soprattutto che cosa ne è stato di queste persone. E allora noi abbiamo cominciato a parlare del film di Carlo praticamente contemporaneamente, mentre parlavamo anche di Diaz. E perché secondo me Carlo ha avuto questa spinta? Sicuramente c'è un motivo, diciamo, etico e politico, non c'è dubbio, conoscendolo bene ormai a fondo, è una persona molto lucida che ha una motivazione etico-politica forte e ci ha regalato questo documentario che secondo me è straordinario. Io non so che ne pensate voi, ma è un film straordinario. Che ha dato una severa lezione ai cineasti italiani, anche quelli del movimento, anche quelli che stanno dentro il movimento, perché raccontare questa cosa in questi termini non era semplice, e fatto da una persona che non fa il regista è una lezione di cinema indimenticabile. Il motivo però, uno dei motivi che secondo il mio parere ha spinto Carlo a fare questo film, anche un motivo di carattere, come posso dire, squisitamente psicologico. Dopo essersi caricato per 10 anni di un dolore così gigantesco, secondo me Carlo voleva in qualche modo dargli una forma a questo dolore, e siccome è una persona intelligente e colta, gli ha dato una forma narrativa fruibile per tutti noi, ci ha fatto un regalo straordinario. In qualche modo io ho tentato nel mio piccolo di fare la stessa cosa, cioè quando ho cominciato a leggere gli atti di processo ho cominciato a stare male, punto, cioè stavo solo male. È stato solo grazie al fatto che ho parlato con gli avvocati che si stavano occupando di queste cose, soprattutto con Laura Tartarini, che è stato il mio referente principale, ma anche con altri avvocati. Io ho cominciato a dare forma a questi fantasmi, che è una forma narrativa, e che in qualche modo fin dall'inizio mi sono convinto che la forma narrativa del film dovesse ruotare intorno al tipo di violenza che si è sviluppata dentro la Diaz e Bolzaneto, perché il mio parere di narratore non è un mio parere solo di persona che si interessa di politica, il mio parere di narratore è che la narrazione di questi fatti ci aiuta a farli uscire fuori da questa zona oscura della rimozione psicologica, sociale, politica che noi abbiamo operato tutti quanti in questi ultimi 10 anni. sono pochissime le persone che hanno mantenuto la lucidità, sono pochissime, ci sono pochissime che hanno mantenuto la lucidità e sono rimaste sul pezzo. Allora, che cosa ha significato raccontare la violenza che voi, non so chi di voi ha visto il film, ma insomma il film racconta questo, è un film che racconta la violenza, è una sorta di eziologia della violenza. Io racconto anche alcuni dettagli della violenza semplicemente perché secondo me psicanaliticamente io avevo bisogno di confrontarmi con questi dettagli e con me lo spettatore è costretto a confrontarsi con questi dettagli. Perché è importante capire questo tipo di violenza? Perché credo che ci sia un tema del quale sarebbe molto importante che parlassimo tutti, tutti quelli che fanno parte dei movimenti, oltre che tutti i cittadini, che è il tema dei diritti della persona, dei diritti civili, del rispetto, diciamo, fondamentale che si deve alla persona umana in ogni contesto, soprattutto, anche e soprattutto in quel contesto particolare che riguarda la giustizia. Quando una persona viene presa in carico in qualche modo dal potere, dallo Stato, dalla polizia, quindi dallo Stato, dalla magistratura, questa persona deve arrivare integra alla fine del procedimento. È una cosa elementare, però noi stessi l'abbiamo riempita di talmente tanti contenuti politici che l'abbiamo persa di vista. Per cui, sapendo da cineasta che un film può raccontare una cosa, io ho deciso di raccontare questa, che se volete non ha nemmeno una cosa che ha a che fare strettamente con la politica, è qualcosa secondo me di più radicale e più profondo che ha a che vedere con quella cosa che chiamiamo civiltà, che è una roba difficilissima da affrontare, da discutere in un dibattito pubblico, ma persino in un saggio, però che è quel luogo simbolico nel quale esistiamo tutti, sia quelli che sono d'accordo con un determinato sistema, sia quelli che lo combattono. E quindi il film, così originariamente, si sviluppa intorno a questa idea. Quindi, ripeto, sono d'accordo con tutte le critiche che sono state fatte al film, per questo motivo. Grazie. Chiaramente, avremo modo poi di fare delle domande. C'è qui Alessandra, che vede lei che ha con il taccuino, addetta a raccogliere eventuali richieste di intervento, di domande principalmente. Se vogliamo fare degli interventi, però insomma poi ci si riduce magari con il tempo. E invece volevo fare una domanda a Elio per scaldarci, poi andremo avanti. Pronto? Sì? Si sente? Sentiamo tutti. Zitti un po' là dietro. Che cavolo. Tu insomma sei un compagno, no? Cioè, diciamo, cioè, se te vediamo qua, te vieni a fare canne, t'abbiamo visto, cioè, t'abbiamo visto. Qualche arvalle che deve fare cose, cioè, ci stai dentro un po' ci stai dentro. E quindi mi domandavo, mettendomi un po' nei tuoi panni, no? Dover recitare all'interno di un film che racconta in modo così profondo un'esperienza che ha toccato, no? Tante e tanti di noi, sicuramente avrà toccato anche te in quei giorni, non so se c'eri o meno, però al di là di esserci, cioè quella cosa abbastanza trasversale, al di là della posizione geografica. Ecco, ti ha aiutato questa cosa, essere compagno e fare questo? Oppure cioè, è stato un dito lì? Sì, allora, innanzitutto essere compagno non ti aiuta mai nella vita, no? Questo è un... è sempre un assunto di partenza. Che cosa ti devo dire? Guarda, innanzitutto che chiaramente ognuno di noi, dato il lavoro che fa, è chiaro che soprattutto in quest'epoca storica cerchiamo le nostre soddisfazioni da un'altra parte, no? Rispetto al nostro mestiere, qualsiasi cosa facciamo, anche chi come me ha la fortuna di fare comunque un lavoro che magari gli piace, però si trova sempre in delle dinamiche per cui c'è a che fare col mercato, le brutte persone, le cose spiacevoli che accadono dappertutto, per cui a essere compagni e a fare le cose con passione ci rimetti solo perché fai il lavoro dei 15 persone e quindi è molto raro che ti trovi a fare delle cose che condividi, No, al di là del fatto che poi vai in televisione a parlarne e per contratto firmi che devi parlarne bene, per cui, anche perché ti pagano solo quando finisci di parlarne, no? L'ultima rata arriva in quel momento là. E quindi, però, di fatto è difficile chiaramente trovare cose che condividi realmente, e alle volte capita di fare dei belli incontri nella vita, come quello che con Daniele, che insomma ci siamo incontrati su un altro film. E già solo lavorare con una persona che ha passione per il proprio lavoro e competenza è una cosa rara, e quindi quando lo trovi già ti senti che stai facendo qualcosa di più importante di portare a casa uno stipendio, insomma, che ti dà più soddisfazione. Quando poi la questione è una questione che ti coinvolge, appunto c'è qualcosa, c'è un valore aggiunto, no? E questo può valere su un tema qualsiasi e può valere su un tema importante come quello che abbiamo raccontato nel film. Daniele era un po' che voleva fare film su Genova, io mi ricordo a un certo punto che dovevi fare 7 film, non so se mi sbaglio. Sempre sì, effettivamente è vero. No, meno male, perché non sapevo se era un ricordo mio, era vero. E quindi è da un po' che sto dietro a questa cosa, seguendo Daniele che fa un lavoro mostruoso e ha fatto un lavoro mostruoso prima di ricostruzione e poi di battaglia contro tutti quelli che non vogliono che tu fai questi film, no? Per cui trovarsi con la notizia che il film si faceva è già una cosa che aspettavamo più o meno dai 6-7 anni. E trovarsi poi sul set con una volta tanto, ecco, la cosa importante che è successa su questo film, che io ultimamente dico sempre, ma mi fa piacere ripeterla pure qua perché è una cosa vera e bella che è successo, è che una volta tanto su un film o su un ambiente di lavoro qualsiasi, tutte le persone che c'erano erano per condividere qualcosa, cioè per cercare di dare il proprio contributo a qualcosa di più importante dei propri stipendi. E t'assicuro e vi assicuro che sul mio campo lavorativo, non so su quello di, forse neanche sui vostri, ma sul mio è molto raro trovare un ambiente del genere, ma mi metto io in prima persona in questa posizione. E in questo senso, ovviamente, con la consapevolezza di non poter raccontare tutto, però abbiamo cercato, ciascuno di noi, chi interpretava i poliziotti, chi interpretava i vari tipi di persone coinvolte in questa storia, di cercare di restituire, appunto, di non mettere davanti la performance, l'interpretazione, le cose, ma di cercare di restituire per quanto possibile un minimo di umanità, di mettersi al servizio, di essere utile. E questa cosa qui, secondo me, che è successa sul set, è anche la cosa che succedeva alle persone che si trovano in quel momento là, cioè è quello che non dobbiamo perdere poi, perché poi tutte queste frustrazioni a cui ci stiamo abituando ci fanno perdere questa cosa importante della vita, che è la soddisfazione di quando fai qualcosa al di là del tuo interesse personale e di quando condividi qualcosa con qualcuno in questa direzione qua. Ecco, innanzitutto questa cosa è una cosa che dobbiamo recuperare, no? Che ci fa, cioè l'orgoglio di questo modo diverso di intendere il mondo, che ci fa poi stare in piazza Genova o lavorare in un certo modo, e a questa frustrazione secondo me dobbiamo resistere in maniera forte, no? Di non tornare, perché poi la prima cosa che succede quando appunto senti sfiducia intorno a te, che ti chiudi nelle tue soddisfazioni, che è fare dei soldi o drogarti o fare non so qualsiasi altra situazione di questo tipo. E per cui non so, questa è la cosa che mi viene da dire, poi mi fa piacere discutere con... C'era Francesco che voleva aggiungere una cosa. Voleva aggiungere una cosa su Bolzanito. Su quello che ha detto Daniele, quasi un completamento che mi sembra però importante. Diceva Daniele che Bolzanito era stata allestita quasi come perché quello che è accaduto ci accadesse davvero, insomma, preparato per accadere quello che poi è accaduto. E in effetti è così, perché al di là del dato dell'organizzazione, dei comandi, di cui ha fatto prima cenno Daniele, Bolzaneto altro non era che un carcere speciale allestito per questa specifica occasione del G8. Però tuttavia il nostro ordinamento giuridico prevede delle garanzie per chi viene arrestato, che il soggetto arrestato ha il diritto di avere un colloquio immediatamente con il proprio legale di fiducia. A Genova c'era una struttura di avvocati che si sarebbe dovuto occupare degli arrestati. Bene, prima ancora che venisse arrestato una persona, il presidente del Tribunale di Genova emette un provvedimento generale con il quale vieta i colloqui tra arrestati e avvocati prima ancora che gli arrestati ci fossero. Quindi un elemento importantissimo che ha poi dato causa a quello che è successo è stato il fatto che chi arrivava a Bolzaneto non poteva avere contatto di alcun tipo con l'esterno e soprattutto non poteva vedere i propri avvocati. Questo che cosa ha significato? Che le persone là dentro sono rimaste in balia di questi aguzzini, perché ovviamente la presenza dell'avvocato avrebbe impedito fisicamente che questo accadesse, solo per il fatto che avrebbe potuto testimoniare quello che là dentro accadeva. Quindi non solo da parte dell'organizzazione dello Stato c'è stata questa predisposizione, ma un contributo importantissimo, quasi decisivo, a quello che è accaduto dentro Bolzaneto è stato dato purtroppo dalla magistratura, al presidente del Tribunale di Genova. Ma io aggiungo una cosa, visto che siamo in tema sempre con Francesco. Dopo una settimana abbiamo capito che per l'ennesima volta ci dovevamo difendere dall'attacco che questo apparato ci faceva, e a poco siamo riusciti a risucchiarci, anche per la nostra debolezza di cui parlavamo prima. Però io questo un attimo lo vorrei mettere da parte, perché vorrei parlare del film che a me è piaciuto molto. È piaciuto come è costruito, è piaciuto come è girato, è piaciuto per la verità che si vede per il film. Chiaramente a noi che stavamo lì manca la verità del nostro vissuto, ma è chiaro, quella è fiction, quella è vita ed è normale. Mi sono piaciute le emozioni che tira fuori, mi è piaciuto distogliere lo sguardo dallo schermo e guardare gli spettatori che non stavano a Genova, e mi è piaciuto vedere come guardavano il film e sentire quello che stavano a provare in quel momento. Quindi per me quello è un successo. C'è una cosa che però voglio chiederti, perché è una cosa che a me l'ho sentita come mancante, che è il peso della morte di Carlo. Cioè io penso che il giorno dopo tutti noi altri, tutti quelli che hanno vissuto quelle storie che tu hai raccontato, le singole, avevano quel peso come un macigno, proprio sopra la casa, sopra la capoccia, dentro, perché un po' era la rabbia di quello che era successo, ma un po' era pure il sentirsi la responsabilità di quello che era successo. Penso che tutti a un certo punto ci siamo detti, siamo cascati dentro una cazzo di trappola di merda e hanno ottenuto quello che volevano. E quindi la rabbia si scontrava pure un pochetto con l'amarezza di aver perso un compagno di 19 anni che stava là, perché avevamo deciso tutti quanti di stare là. Chiaramente l'hanno voluto loro, l'hanno fatto loro, l'hanno cercato loro, però e quel peso dopo quel giorno era totalmente presente dentro le persone proprio. Siccome tu hai raccontato una storia di persone, no? Ho letto delle critiche che io ho tratto un po' del cazzo, come se non si scopasse a Genova, no, non si scopava, ma magari anche i giorni dopo, però sicuramente lo si faceva con quel peso dentro, e tutte le persone che stavano a bere, si trovavano, che stavano lì, lo faceva chiunque hai raccontato in quel film, in quel momento. E io questo peso non l'ho sentito. Allora volevo chiederti se è una scelta proprio, anche perché quella sarebbe stata un'altra cosa grande da affrontare, o se mi concentro su altro e quindi tutta la mia testa è concentrata su altro e non l'ho sentita questa cosa anche nei racconti loro. Poi tra l'altro io appunto ho visto il vostro film la sera dopo ho visto Black Block, mi sono ritrovato nelle stesse storie vedendo le vere facce, insomma è stata, grazie per l'emozione che hai dato a noi che c'eravamo, ma come ho scritto e detto, secondo me è molto importante per chi non c'era a Genova questo film, e anche per il mondo, per vedere in che cazzo di paese viviamo. Io diciamo che è una confessione pubblica che posso fare, io ho molto imbarazzo, che però è pudore, quando parlo anche in pubblico della vicenda di Carlo, perché forse perché me ne sono occupato per molto tempo, a lungo, perché uno dei progetti di cui parlava prima Elio è esattamente la storia di Edoardo Parodi, che era un amico intimo di Carlo Giuliani. Io ho cominciato ad interessarmi, diciamo cinematograficamente, dei fatti di Genova attraverso la storia di Edoardo Parodi. Io non so se voi sapete chi è. Voi sapete chi è Edoardo Parodi? Allora, Edoardo era un ragazzo meraviglioso che il mercoledì o il giovedì della settimana, diciamo, del G8, cioè sto parlando del 19 luglio, discusse con il suo amico Carlo se rimanere o no a Genova. Carlo decise di rimanere, Edo no. Edo seguì la squadra di calcio, seguì il Genoa al ritiro. Edo vede la morte di Carlo in televisione, che Carlo era veramente un amico, cioè erano cresciuti insieme, erano amici sia le famiglie che loro, no? Che loro due. Edo e Carlo non facevano attività politica, erano due cani sciolti, anarcoidi, due persone piene di vita, Carlo con dei grandissimi problemi che Edo per fortuna non aveva, e c'era un rapporto di fratellanza da questi due. Quando Edo vide Carlo ucciso attraverso la televisione, svenne. Era nel Trentino, in una zona in cui appunto la squadra di calcio era in ritiro. Lo sostennero gli amici, ci mise un giorno e mezzo per tornare a Genova, perché era molto difficile raggiungere Genova il sabato, molto difficile, e anche la domenica. Era difficile anche andarsene da Genova, era una trappola. Arrivarci era altrettanto difficile. E dal momento in cui lui è arrivato a Genova ha cominciato a cercare di capire che cosa fosse successo a questo suo amico, ha cominciato a parlare con tutti, e piano piano è entrato in una sorta di trip esistenziale, depressivo, che lo portò dopo l'11 settembre, perché nello stesso anno c'è stato l'11 settembre, quando si passò dal fatto che si parlava tutti i giorni di Carlo, si passò al fatto che si parlava d'altro, di cose purtroppo più grandi, gigantesche, immense, rispetto a quello che poteva essere Carlo. Lui cominciò a vivere male, a vivere malissimo, cominciò a deprimersi. Poi decise, un po' in controtendenza rispetto a tutte le decisioni che aveva preso fino a quel momento, di andare a Davos nel febbraio del 2002. E a Davos, dopo aver partecipato agli scontri, c'erano pochissime persone quell'anno a Davos, il movimento era ormai ridotto al lumicino e c'erano qualche migliaio di persone che parteciparono a degli scontri piuttosto violenti. Nella notte, nel letto a casa di un amico che si chiama Mattia, Edo è morto. Io leggo la notizia di Edo sul giornale. C'era il sospetto che fosse morto a causa dei gas lacrimogeni, no? Il CS, tutta questa roba qui. Fecero l'autopsia in Svizzera, i genitori decisero di cremarlo e la storia è finita lì. Io vengo a sapere di questa storia, comincio a parlare con i suoi genitori e entro in questa vicenda di Carlo e di Edo per anni e anni, veramente per anni e anni. Ed è questo, la prima cosa di cui parlai con Elio era proprio questo progetto che non sono riuscito a realizzare, è un film che ho fallito, cioè non sono riuscito a farlo. E lavorando su questa storia, in qualche modo ho cominciato a sviluppare un forte pudore nei confronti dell'uccisione di Carlo, perché avevo conosciuto un po' tutte le persone con cui ero entrato in contatto. Ero rimasto infastidito un po' come Edo dell'uso pubblico che anche una parte del movimento aveva fatto della vicenda di Carlo, cioè c'era qualcosa che a Edo non piaceva di questo inevitabile utilizzo pubblico dell'immagine di Carlo, che era diventato un'icona, che si era svuotata di significato, non era più una persona, era un'icona, e ho maturato questa sensazione mia personale, che di non voler sfruttare minimamente la sua immagine, ecco, la sua, no? Quando ho deciso di raccontare Diaz, avevo addirittura deciso di non mettere la vicenda di Carlo, forse perché io sono un po' estremo certe volte quando prendo le decisioni, però poi sono tornato indietro su questa decisione perché la storia del giornalista, che nella realtà si chiama Lorenzo Guadagnucci, parte dal giorno prima, cioè Lorenzo decide di andare a Genova perché vede le fotografie di Carlo sul sito di Repubblica e decide di andare a Genova. A quel punto ho pensato che fosse giusto metterlo nel film, perché non era una cosa forzata, non era una scusa, non era una bandierina sbandierata così a vuoto. E quindi attraverso la storia di questo giornalista che va a Genova, in qualche modo sono riuscito a raccontare la storia di Carlo. Mi sono reso conto, guardando i video e le infinite ore di riprese fatte a Piazzale Kennedy, di un lunghissimo dibattito che c'è stato, in cui tutte le persone parlavano sostanzialmente della morte di Carlo, poi circolava anche la notizia che c'era stato qualche altro morto, c'era tutto un clima tesissimo, micidiale, ed è vero quello che dici tu, cioè che c'era una pesantezza mostruosa che faceva sì che le persone non riuscissero nemmeno a parlare tra di loro, no? Io però avevo un problema molto serio dal punto di vista strettamente narrativo, ed era il fatto che quello che sarebbe accaduto di lì a poco era talmente insostenibile sul piano proprio psicologico, per me e anche per lo spettatore, che in qualche modo io non ho calcato la mano in questa prima parte del film, cioè ho raccontato questi personaggi che si muovono intorno alla vicenda della Diaz con un po' di leggerezza, ecco, anche per permettere allo spettatore di scivolare piano piano dentro la storia, non di partire già con delle idee preconcette forti e talmente diciamo pesanti da farlo arrivare a quasi demotivato al momento in cui c'è l'irruzione dentro la scuola Diaz. Quindi è una scelta, diciamo, di carattere narrativo, ma che è legata però a questa storia che vi ho raccontato, perché è una delle tante cose che mi ha fatto riflettere parecchio, questa storia di Carlo, di Edo, della rabbia di Edo nei confronti anche dei compagni che usavano l'immagine di Carlo dappertutto senza nemmeno sapere chi fosse, non gliene fregava niente chi fosse. Edo ha sviluppato una rabbia mostruosa nei confronti di questo atteggiamento, e quindi un po' ne sono stato influenzato, diciamo. Questo è l'unico motivo che mi viene in mente, e che in effetti a rifletterci, ecco, tu mi dicevi che cosa, chi è che mi chiedeva prima che cosa, ecco, questa è una cosa che mi è venuta naturale, non ci ho nemmeno riflettuto più di tanto, però razionalizzando penso che sia questo il motivo per cui ho cercato di non fare un film piatto, cioè di non fare costruire una cappa nella testa dello spettatore che potesse far sì che lo spettatore rifiutasse il film ancora prima dell'inizio, ecco, tutto qua. Innanzitutto complimenti, ho visto il film, davvero mi ha toccato nel profondo, anche perché non c'entra molto, però sono genovese, quindi è stato veramente i primi 20 minuti un colpo. Sì, scusa. Sì, no, mi ha colpito veramente tanto, e vorrei chiedere una cosa che finora non è stata ancora affrontata, ossia all'interno del film a un certo punto c'è, diciamo, una parte dedicata ai media e ai giornalisti, no? In cui è chiaro come i giornalisti stranieri di altri paesi pretendessero molto di più di quelli italiani una verità, e dicessero frasi come: noi nel nostro paese dobbiamo raccontare la verità dei fatti, mentre il referente della polizia è come se sapesse che i media italiani si sarebbero bevuti tutto. Quindi diceva: abbiamo trovato le divise, abbiamo trovato le Molotov, senza veramente la consapevolezza che doveva dimostrare una realtà dei fatti che i giornali avrebbero riportato. Non so se è una mia interpretazione o se era anche nelle tue intenzioni quella di un minimo criticare il sistema dei media italiani, mentre all'estero, in quel caso c'erano tante persone straniere, dovevano raccontare la verità. Allora, cioè, ti ringrazio moltissimo per questa domanda, che apre però uno squarcio gigantesco. Cerco di essere sintetico, io non sono, in questo punto sono molto stanco, quindi non riesco a essere molto sintetico, però cerco di spiegarti il perché in questo modo. Innanzitutto, le riprese che sono state fatte della conferenza stampa ci consegnano un'immagine che è simile a quella che dici tu. C'era in particolare un giornalista greco che urlava e diceva: a me mi dovete dire se c'è qualcuno che è del mio paese, me lo dovete dire, non potete nascondermelo. E lo faceva urlando come un pazzo. Non è che non fossero altrettanto forti le richieste dei giornalisti italiani, però quelle degli giornalisti stranieri erano più chiare, volevano sapere delle cose più chiare. Ecco, ho avuto questa sensazione. Allora ho messo nel film dei personaggi ispirati a queste figure che in qualche modo ci hanno aiutato a raccontare questa strana situazione nella quale il capo ufficio stampa della polizia dà per scontato che i giornalisti si in qualche modo si bevono quello che lui sta dicendo. Di fatto poi, per fortuna, non è che è accaduto in questi termini, perché una delle vittime di tutta la vicenda di Genova, quindi non solo della Diaz ma di tutta, è stata proprio la pubblica opinione, la manipolazione mediatica che c'è stata su tutto ciò che è accaduto a Genova è una cosa da manuale, cioè è talmente enorme, talmente esplicita da farti venire dei seri dubbi sulla lucidità di tutti noi quando partecipiamo a degli eventi pubblici così importanti, no? Degli eventi storici così importanti, cioè si perde di lucidità, e questo succede anche ai giornalisti. Ma i giornalisti hanno conservato una rabbia enorme per tutta questa roba qui, e io me ne sono accorto proprio andando in giro a presentare il film, perché in tutte le proiezioni ho incontrato diciamo un po' di tutto, da gente che era dentro a Bolzaneto, a Diaz, a giornalisti che erano lì, e i giornalisti ti restituiscono ancora oggi la stessa rabbia che in qualche modo sento in alcuni interventi di persone che erano lì e che si sono sentite tradite in qualche modo, si sono sentite sopraffatte, ecco, non tradite. E quindi in queste scene io ho cercato di mettere dentro queste sensazioni. C'è anche un altro dato che non è secondario: anche la presenza degli stranieri dentro la Diaz, nonostante fossero una maggioranza, è passata nettamente in secondo piano nel dibattito pubblico che c'è stato dopo Genova, anche e soprattutto dentro il movimento. E io su questo ho un'idea molto cattiva, è un'idea mia di cui mi assumo completamente la responsabilità. Secondo me uno dei motivi per cui alcune persone che fanno anche parte del movimento, che hanno fatto parte del movimento, in qualche modo non hanno affrontato questo tema è perché c'è la vaga possibilità che questi 40 tedeschi siano degli anarchici, e quindi ammettere che lo siano, insomma, pubblicamente è molto rischioso dal punto di vista di queste persone. Per cui nel dibattito anche all'interno del movimento si è sviluppata una rimozione nella rimozione. Guardando le cose un po' da fuori mi sono detto: questi tabù li voglio rompere, perché poi nel tempo si sono incancreniti e sono diventati dei tabù. Tieni presente il fatto che uno dei libri più, diciamo, più prossimi agli eventi della Diaz lo ha scritto proprio Lorenzo Guadagnucci, che è un libro importante intitolato Noi della Diaz, no? Che racconta soprattutto la sua storia, è quella di Arnaldo Cestaro, il vecchio che si trova in ospedale insieme a lui e che è stato massacrato di botte dentro la Diaz. Questo titolo, in bocca ad una ragazza tedesca, mi è stato restituito ironicamente, perché questa ragazza, parlandomi degli italiani presenti dentro la Diaz, mi ha detto: certo, loro della Diaz. È un'ironia sottile, no? Quasi impercettibile, però per me molto significativa. Cioè, in qualche modo queste persone, gli stranieri, che erano dentro la scuola Diaz e a Bolzaneto, in Italia sono esistiti anche nel discorso, diciamo, tutto interno al movimento, non solo sui media, solo grazie ai processi. Cioè loro, che sono degli anarchici, facendo il triplo salto, agli anarchici non credono nelle istituzioni per definizione, cioè non credono nella giustizia borghese, non credono nelle istituzioni che noi definiamo democratiche, non ci credono, e quindi non volevano venire a testimoniare. Carlo Bachschmidt e tutti gli altri ragazzi che hanno ruotato intorno al gruppo di avvocati che hanno portato avanti il processo hanno fatto uno sforzo enorme, sono andati a prenderli uno a uno a casa loro, nei centri sociali, nelle case occupate, a convincerli che invece era giusto venire a testimoniare. E noi ne possiamo parlare in qualche modo, in maniera consapevole, perché hanno fatto questo salto. Allora mi sembrava, e finisco di rispondere alla tua domanda, anche che tra le tante rimozioni della vicenda di Genova ci fosse anche questa, che non è secondaria, perché racconta da una parte il nostro provincialismo assoluto, questo vale sia per il movimento che per la società italiana in generale, ma racconta anche di una rimozione di carattere politico, che è stata una cosa tutta interna al movimento e che secondo me ha creato dei dissapori talmente profondi all'interno del movimento stesso che il movimento non è riuscito ad elaborare, lo dico francamente senza freni, non è riuscito a elaborare una lettura critica di questi avvenimenti all'altezza della gravità degli avvenimenti. Forse dopo 10 anni, grazie anche ai processi, forse siamo in grado di farlo. Forse, non lo so. Allora, volevo fare il mio intervento proprio stimolato dall'intervento della compagna sulla questione dei media e cose del genere, e quello che diceva sui media. Però ancora prima di iniziare questo argomento prendo spunto da quello che hai detto. Secondo me la più grande rimozione è stata dal punto di vista politico. È interessante la lettura psicoanalitica che condivido e che per molti di noi è stata un qualcosa che ha fatto parte della quotidianità del dopo Genova. Però penso che se qui stiamo assumendoci le responsabilità di movimento, dobbiamo assumerci la responsabilità primaria, che non è quella psicologica, ma è quella politica, di aver voluto rimuovere dei passaggi che a Genova non sono stati chiari e non sono stati condivisi. E quindi su questo ti ringrazio di aver riportato la critica a questo livello. E un'altra cosa che volevo dire è la questione dei media e spezzare una lancia invece nei confronti del movimento che ha cercato nella sua componente del mediattivismo di reggere botta a quel sistema dei media che era preparato a rispondere, a credere a quello che il capo della polizia avrebbe detto. Cioè in quel periodo, facendo parte del Media Center, del gruppo di media attivisti, di Indie Media, di tutti questi processi politici di movimento, mi sono reso conto che noi all'interno del movimento abbiamo cercato di reggere botta a un sistema di media che aveva già preparato il cappotto mediatico a quello che sarebbe successo. E l'unica cosa che magari non condivido è la lettura dei media stranieri della ricerca di verità. I media stranieri fanno esattamente nel loro paese quello che fanno i nostri media, bevendosi completamente quello che la polizia dice. E quindi Genova o Bolzaneto in altri paesi sono quotidianità che si vivono oggi e che si vivono ieri e che soltanto attraverso un tentativo da un punto di vista artistico come l'operazione di un regista come te ma anche da parte del movimento che ha cercato attraverso il lavoro sull'informazione sui media di costruire una non dico una memoria ma un tentativo di narrare il presente in maniera differente con tutto il fuoco dei media che avevi contro e che ha permesso forse che quel lavoro che facevamo, quello che era stato Genova, non fosse soltanto un racconto fatto da quattro telegiornali, ma fosse una memoria collettiva. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti completamente, non ci siamo magari riusciti soprattutto politicamente, come dicevi, a rimuovere queste cose, però penso che il lavoro sia stato tentato, penso che il lavoro anche a livello processuale, attraverso la quantità di video che sono stati prodotti dal movimento, è una cosa determinante per la storia del movimento italiano. Io penso che sia stata una delle più grandi controinchieste a livello video di movimento dopo la strage di Stato, dopo il libro scritto sui fatti di Piazza Fontana. E quindi penso che forse un po' ci siamo riusciti, perché quella memoria è rimasta viva ed è arrivata 10 anni dopo, 11 anni dopo, anche a un regista, anche a un compagno, anche a dei compagni che sono stati capaci poi di rielaborarlo in chiave artistica, in chiave personale. Però questa è una cosa di cui, se ci dobbiamo fustigare per molte cose, su questo penso che quantomeno ci abbiamo provato e in parte ci siamo riusciti. Io voglio dire solo una cosa, artistica. Luchino Visconti ha fatto un film che mi ha fatto capire tutto. Io sono ignorante, te lo dico subito, io a 8 anni mi hanno portato in galera a Volterra, ma te sto a raccontare la vita mia, perché lì la prima cosa tocco lo butta in culo, e invece mi hanno protetto, lì già ho capito che lo sfruttamento già nasceva da là. Sono entrato con la seconda promossa in terza e sostituito con la seconda promossa in terza. Pensa ai soldi che si rubavano, Basaglia. Tutti i soldi, un modo elegante per rubare, basta. Il film di Luchino Visconti, e mi aggrego, scusa, a quel ragazzo là, da salvare proprio il movimento, perché se non si fa politica nei fatti è tutto un bluff. C'è un giro dei miliardi, non so, se sta a fare una politica, non noi qua, mafiosa, sui posti di lavoro, sugli ospedali, stanno a passare certe cose a livello da Argentina, Tringo. La domanda è questa: a certo punto su il Gattopardo, il nipote del principe esce, entra con la camicia rossa, e allora lo zio lo chiama, dice: oh, ma dove stai? Dice: no, non ti preoccupa, vedrai che fra un po' cambia tutto. Erano infiltrato, dopo un po' cominciavano a sparare. Allora, un film come quello ti ha fatto capire quanti infiltrati e quanti infami ci sono. Io non sono venuto a imparare a nessuno, anzi, ho i figli giovani, ma è questo. Grazie, scusa. Scusa. Vabbè, è un po' difficile tenersi tra la domanda e il commento, perché è ovvio che abbiamo tutti... Mi avvicino. No, perché magari sta troppo... No, mi allontano. Torno in platea, no, è complicatissimo, raga. Siamo una massa umana non indifferente. Ok, e quindi appunto è un po' difficile tenere i livelli tra giustamente domande, dialogo, commenti, la voglia di parlare di tutti. Molto in soggettiva, perché penso che sia importante parlare di un noi, ma penso che questo film, come ogni pezzo della nostra storia collettiva, appunto è un tassello di un patrimonio collettivo, quindi poi non esaurisce mai niente, e noi non possiamo forse esaurire questa sera il discorso e dirci qual è il punto su Genova, qual è il punto che Diaz ci consegna su questo, perché sappiamo appunto che parliamo di un pezzo di una grande storia collettiva, di un pezzo di noi. È come parlare di un organo vitale, non è che puoi scindere il tuo stomaco, il tuo fegato, la tua testa da quello che sei, e Genova 11 anni dopo è quello che siamo. Io penso che Diaz nasce da questo, in qualche modo nasce dai nostri organi vitali e riesce a rendere questo, con i suoi limiti, come tutte le cose che non saranno mai appunto pienamente complesse come lo devono essere. Carlo, è vero che non c'è quel macigno, è vero anche che nel non esserci riesce forse a esserci in qualche modo in un pezzettino, in quel racconto di quell'orrore estremo, di quella cosa assoluta, nel rendere come le persone ci sono arrivate, forse riesce a rendere un pochino di quell'empatia collettiva che era la cosa che ti aveva portato lì e che è forse la cosa che Elio raccontava nel modo in cui l'avete fatto questo film. E quindi su questo un po', se vogliamo, la domanda. Cioè, io penso che questa cosa 11 anni dopo ci consegna un pezzo come tanti altri ne abbiamo consegnati, perché non credo nei passaggi risolutivi. E quindi non è che Diaz adesso ci risolve la rimozione o non la rimozione, ad esempio. La rimozione c'è stata, la rimozione forse non c'è, la rimozione di un pezzo di te è una cosa difficile da operare, quindi poi c'è anche stata l'elaborazione continua. Dobbiamo ragionare su questo passaggio qui. Questo passaggio qui appunto ti dice che hanno spezzato con l'orrore estremo qualcosa e dobbiamo noi chiederci insieme che cos'è che hanno spezzato e come invece lo si ricrea o si crea qualche cos'altro. Quindi appunto, se vogliamo, un po' la mia domanda è come possiamo viverci adesso quest'altro pezzo di storia, quest'altro pezzo di esperienza che è la traduzione cinematografica della risposta dello Stato a quel momento di ribellione collettiva, come possiamo, con che chiave possiamo affrontarlo in modo appunto da coglierne tutte le complessità, dal non rifuggire da noi stessi, ma contemporaneamente dal non cadere in uno schema in cui poi ci sono quelli che Diaz la esaltano e quelli che Diaz la demonizzano. Ci sono quelli che dicono che quella cosa è successa perché è stata tutta colpa nostra, delle nostre mancanze di movimento, e quelli che dicono che quella cosa è successa e perché è successa poi ci siamo dimenticati di chi eravamo. Come ritrasformiamo in patrimonio collettivo questo passaggio? Penso che questa discussione stasera è un pezzo di questo, però vedo anche un po' nelle semplificazioni appunto dell'Italia di oggi e quindi anche nelle semplificazioni attorno all'uscita di un film tante cose che invece ci possono far ripiombare un po' nello schema appunto dei binomi e quindi mi chiedo appunto come possiamo un po' insieme far sì che questo film, quel documentario diventano invece occasione ulteriore di elaborazione nel presente, insomma. Non lo so se è una domanda. Ma allora, quando si parla, diciamo, quando si parla in dibattiti come questi, necessariamente in qualche modo a volte si è schematici, no? Quindi anch'io faccio ammenda, diciamo, di un certo schematismo nel modo di porre i problemi, che sono grandissimi, non è che sono risolvibili in poche battute. Quindi avevo chiesto scusa ancora prima di rispondere alla domanda della ragazza, perché dico, sarò schematico, sono dei discorsi enormi. Io credo nella funzione del cinema. Io faccio il regista fondamentalmente per questo motivo. Non ho mai pensato nemmeno un istante di fare il regista perché volessi vincere l'Oscar. No, ho sempre pensato, perché ho conosciuto il cinema insieme ed attraverso una serie di persone importantissime, che sono quelle che hanno, persone che hanno contribuito a costruire, diciamo, ciò che di positivo c'è in questa società, no? Che è il dibattito pubblico, il dibattito politico, il dibattito sulla cultura, per cui per me il cinema fa parte di questa roba qui. È anche vero che però quando si fa un film, giusto o sbagliato che sia, poi diciamo l'ego di chi fa il film vuole sempre incontrare favori, chiaramente. In questo caso io, lo dicevo prima mentre mangiavamo qua a cena, ero consapevole fin dall'inizio che avrebbe incontrato critiche questo film, ma critiche anche in senso positivo. Cioè, io credo che sia molto importante che un film che parla di questa roba qui e che venga fatto in un certo modo e che venga fatto in un modo tale da provocare una discussione, perché su questa roba io non ho nessuna risposta certa, Nel film non ci sono infatti risposte, cioè il film pone lì delle questioni che sono delle domande gigantesche che io faccio a me stesso e quindi faccio anche allo spettatore. Se un film come questo, il film di Carlo e altri film fatti anche all'interno del movimento che magari non hanno avuto una fortuna, diciamo, commerciale, no? Ma che hanno comunque il pregio di aver raccontato delle cose che altrimenti non sarebbero state raccontate, ecco, io penso che questo patrimonio filmico possa essere un modo per affrontare problemi anche molto complessi. Questi problemi vanno affrontati facendo attività politica, discutendo di questioni che sono le questioni che vengono fuori anche questa sera, ma fino in fondo però, non rimanendo così a metà strada, perché la sensazione che ho avuto, no? E qui diciamo, noi poi ci siamo conosciuti al centro, alla zona rischio, ok? La sensazione che io ho avuto fin dall'inizio lavorando su questo film, che una sensazione prima di tutto che parte da me stesso, ma poi conoscendo tante persone che fanno parte del movimento ho pensato che potesse essere propria anche di altre persone questa sensazione, è che alla difficoltà di questa discussione che noi dobbiamo fare troppo spesso rispondiamo con la rabbia, troppo spesso rispondiamo con l'invettiva, molto poco spesso rispondiamo con ragionamento, per cui ragionare ci aiuta. Io non sottovaluto l'importanza che hanno avuto i processi nella vicenda di Genova, anche il processo sui 25, che secondo me è ingiusto, non c'è dubbio che è costruito e non ha voluto pensato in una maniera ingiusta. Credo che però anche quel processo lì, anche l'ingiustizia di cui in qualche modo è portatore quel processo, debba essere fonte di una discussione seria, approfondita, fatta a ragion veduta però, non così in astratto per partito preso. Ed è quello che secondo me in qualche modo fino ad ora è mancato, tutto qua. Ma non è mancato sempre, perché ci sono state le persone che hanno combattuto, sono rimaste sul pezzo, però persone isolate, no? Che in qualche modo sono rimaste lì, discorsi che sono rimasti lì, al punto che al decennale ci si è arrivati stancamente ed è stata una ricorrenza in qualche modo, e questa cosa qui secondo me deve farci riflettere, ecco. Quindi discutiamo assolutamente. Semplicemente perché noi abbiamo anche la fortuna, diciamo, di girare molto col film, quindi di partecipare a dibattiti di gente diversissima e per aggiungere un discorso, diciamo, cioè un altro punto di vista. Cioè, rendetevi conto che le risposte che noi abbiamo sono anche di persone che non sanno minimamente cosa sia successo a Genova. Pensano che il film sia decisamente esagerato rispetto alle cose che sono successe a Genova. Oppure muovono la critica che ma non si racconta la devastazione che c'è stata a Genova, per cui poi i poliziotti hanno... Cioè, ci sono appunto una serie di questioni più terra, anche per capire a che punto siamo con l'informazione fuori da noi, no? Cioè col livello poi di realizzazione delle cose, e è appunto disarmante delle volte, no? Quindi, cioè, c'è da chiedersi anche questo, perché poi uno effettivamente ti viene solo da rispondere col veleno, no? Perché uno si avvelena, invece il discorso è un discorso complesso, il fatto di non avere paura, cioè di non ridursi al discorso sì, no, qua dentro c'erano solo persone innocenti, ma poi innocenti di che? E non andare in questo territorio, no? Del fatto no, tu devi raccontare che la devastazione come appunto come se fosse poi legittimo agire anche se fosse, non so, un locale di stupratori e di, non so, di pedofili che tu entri e devi dar fuoco a tutto, non so come dire. Cioè anche quella logica là, c'è cioè, un discorso da... Che è successo? Che è successo? Ah, una sua amica. No, ce l'ho. Mi dicono di abbassare un po'. Sì, la voce. Abbassate la voce in fondo, mi chiedo. E dopo tutte queste cose un po' pesanti, te la faccio molto semplice, semplice proprio. E il film l'ho visto e l'idea della violenza passa in maniera eccellente proprio, e anche tutto il dolore che probabilmente dicevi ti sei vissuto te, quindi hai espresso. Quindi la domanda la faccio molto facile: il ruolo della guardia di Santa Maria, della guardia con lo scrupolo di coscienza, visto che è una cosa che ci siamo un po' chiesti tutti quanti, e visto che anche in rete è la domanda, magari già ti hanno fatto, però visto che ne posso approfittare, e qualcuno lo associa pure al fatto che è un bel attore, ma per noi questo non ce ne frega niente. Insomma, la cosa fondamentale è appunto che senso c'ha, che il perché, e che su quale base il ruolo della guardia con la crisi di coscienza. Ma pure Elio Germano è bello, però eh? Non so. No, allora, qua però vorrei chiedere aiuto al nostro avvocato, che conosce molto meglio di me gli atti. Adesso, se dico delle stupidaggini, aiutami, ma io ho letto gli atti del processo da profano, io non sono un uomo di legge, no? E quando mi sono imbattuto nella udienza in cui parla, viene interrogato dal PM Michelangelo Fournier, io l'ho riletta, non lo so, 150 volte, perché in tutta quella vicenda ci sono delle cose che sfuggono e ci sono anche delle cose che però sono accertate dal processo. Io vi devo anche confessare che, siccome faccio il narratore, non devo emettere delle sentenze, negli atti ho cercato anche dei momenti in cui, che so, dovendo fare una ricerca, devo cercare tutti gli elementi possibili e immaginabili, ho cercato anche dei momenti in cui, che ne so, qualche poliziotto avesse fatto qualcosa di positivo, no? O di non completamente negativo. È stata dura. E però mi sono imbattuto in questa udienza nella quale Fournier, questo poliziotto romano, che era un vicequestore e dirigeva il settimo nucleo sperimentale di Roma, incalzato dal PM, ammette di essersi tolto il casco, no? Perché il PM dice: ma è vero, lei si è tolto il casco, è lei il poliziotto? Sì, sono io il poliziotto che si è tolto il casco. Ma è lei il poliziotto che ha detto basta, basta? Sì, sono io il poliziotto che ha detto basta. Perché ha detto basta, basta, eccetera, eccetera. E lì lui racconta una cosa che ha un riscontro pazzesco nella testimonianza di Jeanette Dreyer. Jeanette Dreyer, che non so se qualcuno di voi ha visto il mio film, è l'infermierina, cioè la ragazza che, anziché tirar fuori una pistola dal sacco, tira fuori una cassetta da infermiera e va a soccorrere una ragazza che nel film si chiama Karin, ma che nella realtà si chiama Melanie, e la va a soccorrere chiedendo prima però a questo poliziotto che è lì se può farlo. E Jeanette conferma parola per parola questa parte della deposizione di Michelangelo Fournier. Mi sono chiesto che cosa potesse significare tutto questo, no? E anche che cosa potesse poi significare nel film. Per esempio, mi sono chiesto: ma se io rappresento la polizia come qualcosa di completamente impersonale e non ho la possibilità di umanizzarla in nessun modo, questo fatto gioca a favore dell'interpretazione che sto dando agli eventi o gioca a sfavore? Se sono delle macchine a massacrarti di botte, le macchine non hanno un'anima e quindi non sono colpevoli, non sono responsabili. Se sono delle persone, allora posso cominciare a pensare che hanno delle responsabilità. La storia di questo poliziotto con quello che poi racconta sempre nel processo, io l'ho trovata estremamente interessante, perché quando lui esce dalla scuola Diaz incontra il suo superiore che si chiama Canterini e, ascoltato da altri testimoni come viene riportato nel processo, dice a Canterini: io con questi macellai non ci lavoro più. Il PM gli chiede: ma scusi, ma di chi sta parlando lei? Chi sono i macellai? Lui lì dice una frase molto sibillina, dice: no, ma io mi riferivo agli altri poliziotti, non a quelli del suo nucleo. È chiaro che il PM non ci crede, e lo fa capire chiaramente il PM, perché il PM quella cosa lì la prende evidentemente come uno sfogo di Michelangelo Fournier rispetto ai propri uomini. Allora, tutte queste cose, io con tutta la loro ambiguità, con tutto il loro, diciamo, essere polisenso, piene di significati anche contrastanti, ho ritenuto giusto metterle nel film. Anche perché a questo poliziotto è stato ordinato di portare le persone, gli arrestati, come li chiama il suo superiore, i prigionieri, a Bolzaneto. A me piaceva molto questa roba qui, perché il collegamento con Bolzaneto me lo potevo costruirlo anche in questa maniera. E difatti queste persone, questi poliziotti, hanno svuotato i mezzi che non sono adibiti al trasporto degli arrestati, li hanno svuotati, hanno portato le persone a Bolzaneto. Tutto quello che racconto nel film è assolutamente aderente, diciamo, a questa interpretazione che io ho dato degli atti. Dopodiché, come posso dire, è tutto discutibile, è soprattutto, dopodiché, mi assumo la responsabilità di questa scelta, perché è una scelta narrativa, potevo anche non raccontarlo, e ho deciso di raccontarlo perché, secondo il mio parere, il fatto che tutta questa roba abbia luci ed ombre aiuta qualunque spettatore, non solo lo spettatore, diciamo, che sa già che cosa è accaduto, che è già convinto dell'ingiustizia, ma aiuta qualunque spettatore del mondo a stare dentro il film, a capire il film, a capire persino le cose da un punto di vista che non è quello degli anarchici, ma può essere quello dei poliziotti. E questo momento di frattura nella coscienza di un poliziotto per me ha un valore narrativo enorme. Non so se abbia un valore processuale, perché poi lui è stato condannato e in appello in realtà poi è stato assolto per prescrizione del reato. Quindi questa è la storia. Sì, aggiungo a quello che ha detto Daniele. Attenzione, lui è un poliziotto, lui ha il dovere, aveva, e tutti quelli che stavano lì avevano il dovere di arrestare i propri colleghi che stavano infierendo sulle persone, avevano il dovere giuridico, costituzionale di fare questo. Nessuno lo ha fatto, neanche Fournier. E non solo non ha, come dire, adempiuto al dovere a cui doveva adempiere per la divisa che portava e che ancora porta insieme agli altri, ma si è anche rifiutato di fare i nomi di persone che lui conosce benissimo, perché sono i suoi sottoposti, quelli che infierivano sui ragazzi dentro la scuola Diaz. Questo dobbiamo dirlo, come dire, per completezza documentale e storica. E Fournier ha anche giustificato questo suo atteggiamento con una argomentazione usata durante il processo, che è tale e quale quella di un mafioso. Io non faccio i nomi per spirito di corpo. Come dire, io non posso fare i nomi dei miei complici, che è quello che, insomma, diciamo, è il modo di ragionare che va dal mafioso al criminale di strada. Questo dobbiamo tenerlo presente, inevitabilmente. Così, visto che mi trovo il microfono, vorrei anche dire qualcosa su quella vicenda di Carlo Giuliani e sul peso che essa rappresenta per tutto quello che è successo dopo e tutte le discussioni e tutto quello che si è sviluppato nel movimento. Noi non dobbiamo perdere di vista un dato dal punto di vista della ricostruzione storica, questo sì, perché è vero che la storia non si fa nei tribunali, ma molto spesso, come si è avuto modo di dire dopo l'ultimo processo sulla strage di Brescia, nei tribunali si raccolgono tantissimi documenti che poi servono a fare la storia. E noi dobbiamo avere ben presente che la catena di eventi che porta alla morte di Carlo Giuliani è scatenata a freddo dai carabinieri con una carica ingiustificata e illegittima al corteo delle tute bianche. Di lì a pochi minuti si arriverà alla morte di Carlo Giuliani. Questo antecedente storico fa parte anche dell'opera di manipolazione delle informazioni, perché questa circostanza, cioè che i carabinieri caricano a freddo, illegittimamente, senza motivo, durissimamente il corteo delle tute bianche, è, come dire, è cosa nota e pacifica ai vertici dell'organizzazione di pubblica sicurezza del G8. Nel senso che dall'altra parte, diciamo, dall'altra, per dire meglio, nella sala operativa, nella zona rossa, si era ben consapevoli che quella era stata una carica sciagurata, che non aveva nessun senso, nessuna ragione, nessuno scopo, e che da quella carica poi era, si è arrivati alla vicenda della tragedia di Carlo Giuliani. Eppure si sono ben guardati dal dare questa informazione nell'immediatezza dei fatti. Nessuno è andato davanti alle telecamere per dire questi sciagurati hanno fatto un disastro. Nessuno. Si è ribaltata la comunicazione e il tutto è apparso come opera di terroristi, black bloc, di cui insomma è tutto il resto che ne deriva. Questo poi lo si è scoperto nel processo, perché si sono acquisiti le comunicazioni telefoniche via radio che intercorrevano tra le varie pattuglie che erano in giro per la città e la sala operativa. E da qui si comprende. Per di più c'era pure un documento che è stato tenuto, diciamo, coperto fino a quando non è stato portato alla luce nella commissione indagine parlamentare, che era il percorso autorizzato dalla questura per il corteo delle tute bianche, e lì risultava documentalmente che nel punto in cui erano stati come dire, caricati non c'era, cioè il percorso era autorizzato. Non solo ha determinato la morte di Carlo Giuliani quella sciagurata manovra dei carabinieri, ma ha anche contribuito a portare nel processo dei 25 15 persone che vennero accusate di devastazione per fatti che accaddero immediatamente dopo questa carica. E in quel processo si ricostruisce la illegittimità di questa carica, dell'operato dei carabinieri, e 15 di queste 15 persone vengono assolte perché non hanno commesso né devastazione né saccheggio, ma hanno resistito, hanno reagito a un atto illegittimo della pubblica autorità, che è la traduzione, diciamo, legale di quel diritto di resistenza che viene dalla Rivoluzione francese, ormai fa parte di quasi tutte le legislazioni occidentali. Dovrei fare un preambolo. Devo fare una domanda all'avvocato e anche insomma al cast e un po' a tutti quanti noi che stiamo qua. Dovrei fare un preambolo per rispetto della nostra storia collettiva sulla liceità della giustizia dello Stato e sulle differenze tra civiltà e umanità. Lo salto, do per scontato che insomma questo distinguo lo riusciamo a fare. Anni fa ho sentito parlare per la prima volta di questo reato di compartecipazione psichica. Che strano, insomma, questo reato. E pensavo, ora c'è questo processo che continua ancora per il 25, ci sono anche altri processi che vanno avanti per il 15 ottobre, per esempio, oltre a tanti altri processi. Avvocato, c'è una possibilità, se tante persone si autodenunciassero per il reato di compartecipazione psichica, che possa facilitare questo il processo per chi è accusato. E la domanda che faccio a noi, alle persone che hanno fatto il film, al cast, se si autodenunciassero per questo reato di compartecipazione psichica in questi processi. No, non pesano sui processi perché non incidono. Può avere il senso di un'iniziativa politica da parte di qualcuno, non lo so, ma sul piano giuridico pesano zero. Allora, silenzio, stiamo... Allora, chi, diciamo così, un po' è affaticato e stanco, casomai si può spostare un po' più fuori, perché gli altri un po' continuano. Non continueremo all'infinito, diciamo che stiamo anche concludendo. Io faccio un po'... La mia domanda sarà al forte prenestino, non tanto. Dovete abbassare la voce. Cioè, mi dicono in maniera decisa che bisogna abbassare la voce e sta silenzio perché la discussione continua. Allora, diciamo io, la mia domanda poi alla fine sarà al forte prenestino, perché, lo so, vabbè, che devo fare? Dico questo perché io non ho visto il film, per esempio, non ho visto Diaz, ho visto Black Bloc, l'avevo visto insomma già prima, e non l'ho visto per, diciamo, perché ho ancora negli occhi, stando alla Pascoli, quello che erano quei giorni, che diciamo dopo 10 anni, 11 anni ancora, insomma, fanno svegliare nella notte molte e molti di noi. Quindi diciamo che sicuramente ancora, probabilmente non ero ancora pronta. Dopo questa discussione, in questo devo dire, devo ringraziare Daniele, e dopo sicuramente questa discussione, sentire anche dalle sue parole lo spirito che l'ha portato a costruire questo film, dopo aver visto insomma quanta gente ancora ci tiene a parlare, non soltanto della Diaz, a parlare di Genova, poi penso che l'episodio della Diaz insomma, è venuto a conclusione di diversi giorni e mi sembra che dagli interventi insomma si abbia voglia di parlare ancora di Genova e di parlare anche, ho visto Black Bloc perché mi andava di, sono un po' emozionata in questo, di ritrovare quello spirito che mi aveva portato a Genova, no? Cioè di trovare prima quell'unione e le motivazioni che mi avevano in qualche modo portato a Genova. Dico questo perché sembra quasi, io sono anch'io quel giorno, insomma, io non dovevo andare a Genova, e poi a un certo punto, il giovedì sera, ho preso un treno e sono partita da sola, perché ho pensato che quello che stava accadendo lì, dove c'erano tutti i miei amici, un po' come la storia che ha raccontato di Carlo ed Edo, ma molto colpita, perché quello che stava succedendo lì era sicuramente importante, perché c'erano 300.000 persone che andavano a dire delle cose ben precise, molte delle quali poi, diciamo così, si sono anche avverate, perché tutta la questione sulle banche, sui soldi, eccetera, non è che, diciamo, le motivazioni che hanno portato 300.000 persone a livello internazionale a Genova non avevano, insomma, dei contenuti. I contenuti erano molto forti, tanto che hanno dovuto ammazzare una persona e picchiarne molte altre. Quindi in qualche modo ho pensato che era meglio, qualsiasi cosa dovesse succedere, non solo stare lì perché era importante per le motivazioni, ma anche perché c'erano le persone, i miei amici, e un po' nell'aria si sentiva un po' questa questione di Genova, un po' le minacce, quello che aveva detto anche Berlusconi e via dicendo. Insomma, andando un po' a concludere, ho pensato in qualche maniera, soprattutto in questo, insomma, pensando anche a quel che rimane di Genova, e diciamo nella mia memoria personale, visivamente, mi può rimanere quello che ancora mi sveglio di notte, no? Pensando, vedendo le persone massacrate alla Diaz, piuttosto che le botte e via dicendo. Però diciamo che c'è una parte ancora molto importante, che sono 10 persone che in qualche maniera stanno per essere condannate per quello. Se fosse accaduta oggi questa cosa, avremmo usato uno slogan che va tanto di moda, che è si parte, si torna, si parte insieme e si torna insieme. Ultimamente nei processi, nei cortei, va molto, insomma, si dice giustamente, ce l'ha insegnato la Val di Susa, e lo portiamo così in tutte le manifestazioni, per cui in questa è la mia domanda, insomma, appunto dicevo nel forte, perché mi piacerebbe che, e questo ringrazio Daniele, che poi tutte queste persone che io vedo qua, che stanno stasera, molte le conosco, molte altre no, quindi in questo penso che sia importante anche quello che tu dici, perché oltre al film hai anche una capacità dialettica molto, di comunicare molto bella. Si vede che hai, io non so neanche se tu c'eri a Genova, per esempio, in non c'eri neanche, no? Però l'hai inquadrata molto bene, cioè l'hai capita molto bene, casomai, e l'hai elaborata e la stai diffondendo molto meglio di quanto casomai l'abbiamo fatto noi o lo facciamo noi, proprio perché siamo coinvolti, siamo stati coinvolti in prima persona e lo siamo tuttora. Quindi mi piacerebbe, diciamo, ritornando un po' a quello che diceva Fabrizio all'inizio, quello che ha detto Antonio adesso, che si continuasse a parlare delle persone che ancora stanno, che rischiano 12 anni di carcere. E in questo volevo coinvolgere il Forte, che si è fatto promotore di questa giornata oggi, secondo me molto positivamente, molto ben riuscita a continuare questa discussione, anche a breve, perché comunque la Cassazione sarà a luglio, quindi una discussione che possa essere il più collettiva e partecipata possibile per costruire delle mobilitazioni da qua a luglio. Di solidarietà e supporto, ormai non dico di quello che dice Bizio, è pari e patta, purtroppo noi pari e patta non lo so se si può dire, comunque almeno di supporto e di sostegno a delle persone che, ripeto, l'ha detto l'avvocato, per delle vetrine, non è che stiamo a parlare di devastazione di Genova, per delle vetrine rischiano 12 anni. Scusate l'emozione. Vabbè, io direi che abbiamo ancora qualche altra domanda, però sarebbe importante essere un po' più sintetici, perché siamo, è innegabile che chiunque di noi, soprattutto chi ha un vissuto riguardo Genova un po' più forte, si sente particolarmente coinvolto. Però sono le 11:30, io direi facciamo magari l'ultima parte abbastanza veloce, con domande secche, poi per la psicanalisi tra di noi spero che troveremo altri spazi, altri momenti, no, più che altro anche per che sia costruttiva, perché come diceva anche Cristina, ci sono rimasti 2 mesi, 10 persone, proviamo se la riporta a casa, poi dopo continueremo pure a attaccarsi i pipponi, però secchi. Ho visto il film, ho trovato un problema, ed è che mi sembra che non è molto chiaro dal punto di vista politico, perché infatti mi ha fatto dubitare subito dopo che l'ho visto, non capivo molto bene l'intenzione del film. Chiaro che è un film di denuncia, però quest'ultima scena dei francesi che si rendono conto di in qualche modo aver causato questa strage, no? Queste persone massacrate in qualche modo avevano sofferto per colpa loro, che erano i veri terroristi, per così dire, i veri violenti, e a me personalmente ha fatto pensare che sotto quest'ordine di idee la polizia avrebbe avuto veramente una ragione in fondo per attaccare i manifestanti, perché questo voleva dire che c'erano veramente i violenti, che c'erano, mi è sembrato una specie di giustificazione. Questo come una prima domanda. E poi mi è sembrato che lei abbia fatto una denuncia più del comportamento, dell'agire dei poliziotti, che del governo italiano, che sono sicura conosceva la situazione, e quindi alla fine risulta anche per i personaggi, diciamo, che lei ha scelto, il modo in cui li ha trattati. Mi pare che... Chiedo scusa se ci metto un po', non sono italiana e per me è difficile. Scusate. Bene. In ogni caso, mi è sembrato che lei ha evidenziato di più la brutalità commessa dai poliziotti che quella commessa dal governo o comunque come si dice, dallo suo amministratore. Sì, e che mi sembra in realtà ancora molto molto più grave. Ha fatto apparire Berlusconi in due scene, ma soltanto in un modo poco incisivo, sì, l'ha soltanto accennato. E mi domandavo se questo film ha veramente l'intenzione di denuncia che sembra di avere, perché non l'ha trattato questo argomento in un modo più profondo? Un'altra, però posso essere breve, insomma. Finito? Allora, Sgalla, il capo ufficio stampa della Polizia Italiana, è un uomo di sinistra. Ok, è della CGIL. Allora, lo dico questo perché deve essere chiaro a tutti che la vicenda politica che sta intorno, la vicenda politica, che è una cosa specifica, diciamo, italiana, che sta intorno ai fatti di Genova e alla scuola Diaz e Bolzaneto, non è esemplificabile raccontando le responsabilità del governo Berlusconi. Il governo Berlusconi si era insediato da 2 mesi, ok? Dentro il governo Berlusconi c'erano delle forze che si richiamavano al vecchio partito fascista, che anche avendo cambiato nome continuavano a pensare in quel modo lì. È anche vero che il capo della polizia che ha gestito questa operazione era stato nominato dai governi di centrosinistra e che pochi mesi prima, come ho accennato all'inizio di questa discussione, a Napoli è accaduta una cosa del tutto simile a quella di Genova. Questo non lo dico per togliere responsabilità al governo Berlusconi, ma per spiegare semplicemente un fatto, cioè che tutto quello che poi porta a Genova è la costruzione, diciamo, di un'intera classe politica che infatti ancora oggi non trova voce per poter risolvere, affrontare o semplicemente parlare in pubblico di questo problema. Allora io mi sono posto questa domanda, no? Come la poni tu, e ho pensato, siccome muoiamo di politica e muoiamo di discorsi politici non solo dentro i movimenti ma soprattutto fuori dai movimenti, e questi discorsi politici sono stucchevoli e hanno portato, diciamo, l'Italia sull'orlo del disastro che stiamo vivendo, diciamo, in questi giorni, se io avessi cominciato a seguire le responsabilità politiche a partire da quelle vere, cioè di chi ha nominato queste persone, chi ha, per esempio, faccio un altro esempio stupido, i GOM, i gruppi, diciamo, operativi della polizia penitenziaria, sono stati creati dall'unico guardasigilli comunista che c'è stato in Italia dopo Palmiro Togliatti. Ok? Si chiama Diliberto. Allora è molto, molto, molto complicata questa faccenda. Allora che cosa ho pensato? Se mi metto a costruire tutta questa, diciamo, lettura politica molto complicata, io ho fatto sicuramente dei nomi che tu non conosci, di persone che tu non conosci. Se mi metto a costruire tutto questo, faccio passare in secondo piano la gravità del fatto in sé. Io sono un cineasta, faccio un film, posso raccontare una cosa. Racconto la cosa che ritengo più inaccettabile, più grave che è accaduta dentro la scuola Diaz e Bolzaneto, che in qualche modo mette in discussione la nostra idea di democrazia, quella che magari qua dentro non condividiamo tanto, ma che fuori dal centro sociale milioni di persone pensano di condividere, cioè una democrazia basata sui diritti e sui principi. Se io non racconto questa roba anche a queste persone, è assolutamente inutile che io faccia questo film, è assolutamente inutile. Allora, qual è il tema, la questione fondamentale? La questione fondamentale è che dietro le spalle di quei poliziotti, che io ho ripreso spesso di spalle, non so se tu hai visto il film, no? Dietro le spalle di questi poliziotti ci siamo noi, cioè ci sono tutti gli italiani, altrimenti in 10 anni, se ci fosse stato anche un briciolo di indignazione di questo paese, in qualche modo si sarebbero sciolti certi nodi. E secondo il mio parere personale, al di là delle responsabilità politiche di questo o di quel politico, di questo o di quel governo, il tema grosso che ci troviamo ad affrontare, secondo me, è esattamente questo. Cioè, il mio parere è che non basta un ordine nel 2001 per far fare a un poliziotto quello che facevano i militari nei campi di concentramento. Non ci posso credere che un uomo, per quanto porti il cervello all'ammasso, possa obbedire ciecamente a un ordine se non sente alle proprie spalle un'intera popolazione. Quindi dare delle responsabilità politiche è possibile, non c'è dubbio, però fa parte di quell'atteggiamento un po' consolatorio che è proprio della nostra cinematografia, della cultura della sinistra italiana, non solo del giornalismo, ma anche della letteratura, dell'arte in genere, che andando alla ricerca di responsabilità politiche precise, poi perde di vista delle questioni che sono più ampie e più difficili da affrontare. In sostanza... il motivo per cui è accaduto quella cosa a Bolzaneto, se devo dirtelo in termini ideologici, è lo stesso motivo per cui noi abbiamo per 15 anni un uomo politico che fa ridere i polli e che governa l'Italia. È la stessa cosa, non c'è tanta differenza. Cioè semplicemente noi agiamo collettivamente per amnesie, diciamo, quindi per rimozione dei fatti storici, o per indifferenza rispetto a ciò che accade. Dietro queste amnesie, questa indifferenza, c'è un'acquiescenza di fondo. Noi accettiamo quello che succede, anche le cose più terribili. Per concludere, io ho sempre pensato, perché ho raccontato Diaz e Bolzaneto? Tutti i motivi che vi ho detto fino adesso sono validi, cioè li riaffermo, ma ce n'è un altro che non ho nominato ancora, ma che spero che in qualche modo passi. Il fatto che dietro quelle cose che sono accadute c'è una grande domanda che dobbiamo farci tutti noi. Quella sospensione della democrazia è accaduta solo in quel momento, quel giorno lì, oppure in qualche modo quella roba ha fatto scuola ed è diventato una chiave di lettura dei conflitti sociali in tutto l'Occidente? Questo problema è un problema molto serio, perché dopo l'11 settembre lo stato di eccezione, cioè il fatto che ci sono dei luoghi dove venne sospesa la democrazia, è diventato un fatto comune in tutto l'Occidente. I CIE che noi abbiamo in Italia, i centri di detenzione temporanea, di espulsione, di identificazione delle persone non residenti in Italia, sono dei luoghi istituzionalmente accettati e anche socialmente accettati. Non è vero che non se ne parla, per esempio, dei CIE, se ne parla tantissimo, ogni volta che succede un incidente il telegiornale ne parla, no? Gli italiani accettano che ci sia. Se noi non guardiamo in faccia questa roba non andiamo da nessuna parte. Per cui, facendo marcia indietro, il fatto in sé, la gravità del fatto in sé, il livello di violenza e il fatto che i poliziotti sono arrivati a distruggere l'emotività, a distruggere non solo nel fisico ma anche psicologicamente le persone che erano lì dentro, è qualcosa che ci interroga sul tipo di democrazia che abbiamo costruito. Dire che è colpa di Berlusconi o di Fini o di Scajola ci aiuta, diciamo, a sentirci più tranquilli quando torniamo a casa, però in realtà non ci aiuta assolutamente a niente. Questo è un po' il succo della questione. Posso? Volevo solo aggiungere a quello che ha detto Daniele un dettaglio di ricostruzione storica, perché effettivamente quello che diceva Daniele su Napoli è la prova generale di Genova, però è necessario anche dare conto di questo. Il G8 viene organizzato e preparato dal governo di centrosinistra, se dobbiamo, come dire, dirle le cose. Non, Berlusconi c'entra poco, arriva alla fine. Il G8 viene organizzato e preparato dal governo di centrosinistra e il governo di centrosinistra che autorizza per la prima volta in Italia, introduce per la prima volta in Italia il manganello tonfa, che ha provocato quell'orrore che si è visto per le strade dentro la scuola Diaz e dentro Bolzaneto. Lo firma il decreto di acquisto il ministro Bianco dell'allora partito popolare. Il settimo nucleo del reparto mobile, comandato da Canterini, viene costruito apposta tra gennaio e febbraio del 2001 in previsione di luglio 2001 e riceve un addestramento particolare a Ponte Galeria. Tutte queste cose sono state ricostruite non nel processo ma nella commissione parlamentare di indagine. Vicino al CIE, si addestra a Ponte Galeria e nel programma di addestramento, perché in buona sostanza sono stati addestrati come dei pitbull, scusate il paragone ma serve, l'addestramento consisteva nella maggior parte dei casi nel caricare dei figuranti che erano vestiti di nero e portavano bandiere rosse. Questo è il risultato proprio, diciamo. Questa è la preparazione del G8, che poi al G8 queste persone si siano scatenate in questa esplosione di violenza, non c'è poi da meravigliarsi una volta, perché noi tutte queste cose non le sapevamo prima, ne siamo venuti a conoscenza dopo, e di tutte queste cose è responsabile politicamente il centrosinistra di allora. Prova, sì. Volevo proseguire il discorso apertosi con l'ultima domanda. A mio avviso, quello che manca in Italia, da parte probabilmente della stragrande maggioranza delle persone che possono aver visto il suo film, io ho visto il film, è la coscienza dell'esistenza, prima di tutto, di una storia politica e, in secondo luogo, ma per una conseguenza ovvia, di una storia psicoanalitica del nostro paese. Detto questo, lei faceva riferimento al concetto di rimozione e parlava del suo film come di una possibilità di risalita nel processo di rimozione alla sua origine, quindi allo svelamento di quello che è stato l'oggetto del processo stesso. La mia opinione è che abbia senso parlare di rimozione soltanto nell'ambito di una cura in cui è presente un medico e un paziente. Ora, nel caso del cinema, la comunicazione tra il medico e il paziente non avviene nella maniera, diciamo, approfondita e continuata che dovrebbe avere, e quindi le persone che vanno a vedere il suo film e si trovano e trovano qualcosa che assomiglia al contenuto di un incubo e che possono riconoscere come il contenuto di un incubo che qualcuno ha vissuto si trovano, a mio avviso, senza una guida, la guida del medico, perché il film non fornisce quegli appigli che potrebbero, come lei dice giustamente, potrebbero mettere tutti gli spettatori alle spalle di quei poliziotti che hanno compiuto i pestaggi. Ecco, secondo me c'è una carenza in questo. Ora, a mio avviso, avendo ascoltato i suoi passati interventi, potrebbe anche essere che lei mi risponda. Ora, non è di competenza del cinema che ci sia una guida, non è di competenza del cinema che si offra tutto l'aiuto allo spettatore paziente per riconoscersi. Tuttavia, trattandosi di qualcosa di così profondo e di così tragico, io credo che un appiglio in più, almeno perché nel film si riconoscesse l'evento della Diaz come un evento della storia italiana, doveva esserci. Ecco, vorrei sapere cosa pensa di questa analisi. Perché sembra un evento della storia afghana. Cioè, tu guardi questa cosa qui pensando che è successa in Afghanistan, in Iran, in Sud America. Può darsi che questo livello di incredibile violenza sulle persone, sui corpi e sulla psiche delle persone sia una cosa che noi vogliamo mettere lontano da noi. Infatti, fin subito dopo i fatti di Genova, ci sono persone che hanno definito questi fatti come la notte cilena, la macelleria messicana, il comportamento sudamericano. Il problema è che è successo in Italia. È DOC, è di origine controllata. La metafora, diciamo, linguistica che si fa nel momento in cui si dice, si usa il termine rimozione, se viene applicata in maniera pedissequa porta al ragionamento che fai tu, non c'è dubbio. Però esiste una forma di rimozione collettiva degli eventi che accadono, che ha tanti significati e ha tante motivazioni. Per esempio, noi proprio come paese abbiamo una difficoltà a comprendere l'origine di alcune grandissime disfunzioni che viviamo. Prima è intervenuta una ragazza di Genova, no? Una delle cose che io non ho potuto raccontare, ma che di cui mi sono reso conto studiando tutto quello che è successo a Genova, è che questa cosa è successa proprio a Genova. Genova è la città, una delle 3-4 grandi città italiane nelle quali è nata la democrazia italiana. Genova, medaglia d'oro della Resistenza, è una delle città che ha dato a questo paese quella roba che chiamiamo democrazia, una costituzione, elezioni politiche libere e così via. Questi accadimenti a Genova hanno causato una frattura dell'Italia con la propria storia che secondo me noi non abbiamo considerato fino in fondo. Noi come cittadini, i politici come dirigenti di questo paese e nemmeno gli uomini di cultura. Per cui credo che queste cose vadano assolutamente affrontate e approfondite. Se il film ha, diciamo, delle insufficienze da questo punto di vista, non mi sorprende, ecco, perché, ripeto, non è una giustificazione che vale sempre e comunque, ma quando si racconta un fatto, non so se voi avete visto, se avete visto Anger, no? Quel film lì racconta la storia di Bobby Sands solamente nel momento in cui è in prigione. Racconta quello, raccontando tutta la sua storia dentro la prigione, trascura tutta la lotta gigantesca portata avanti per decenni da quel movimento, dal movimento per la liberazione, diciamo, nazionale di quel paese. Però non mi sento di dire al regista: dovevi farmi fare vedere prima del film un telegiornale che mi spiegasse che cosa è accaduto, perché a me interessa la storia di quest'uomo e il fatto e il modo in cui ha portato avanti lì dentro la sua lotta. Tutto il resto, diciamo, è una cosa che mi, quel film mi spinge a conoscere meglio tutta quella storia lì, tutto qua. Spero che Diaz faccia altrettanto, non credo che possa fare molto di più. Io sarò brevissimo e volevo... Abbassate la voce in fondo. E chi sta al pub soprattutto? Ciao, volevo sapere se ci spiegavi brevemente i vari motivi e le varie vicissitudini che hanno portato a girare il film fuori dall'Italia. Allora, mettiamola così. Sì, allora, cominciamo dalla fine. Dopo essere stato 10 settimane in Romania, siamo tornati a Genova. L'autista che guidava la bisarca su cui erano tutti i mezzi della polizia usati nel nostro film si è fermato a un autogrill e ha chiesto un'informazione a una persona. Ha detto: scusi, dov'è la Film Commission di Genova? Questa persona ha detto: scenda. Lo ha fermato e ha sequestrato tutti i mezzi del film. Mi chiama l'organizzatore del film e mi fa: Daniele, che facciamo? Dico: niente, andiamo a parlare col questore. Dice: vabbè, vado io, meglio che vado io, poi casomai se è necessario vieni pure te. Dico: sì, però di per favore al questore che noi stiamo facendo un film, no? E se i mezzi sono in regola ce li ridia, altrimenti ci costringe domani a fare una conferenza stampa antipatica nella quale denunciamo questo fatto. Il giorno dopo le foto dei nostri mezzi erano su un giornale di Genova che si chiama Il Corriere Mercantile e contemporaneamente ci sono stati restituiti. Abbiamo perso poche ore di lavoro e abbiamo potuto lavorare. Ci hanno chiesto scusa, nel senso che il questore ha detto: scusate, avete incontrato la persona sbagliata, ma diciamo che facendolo in Romania il film abbiamo incontrato meno persone sbagliate possibile. Buonasera. Uno dei produttori del film, Diaz, è un regista rumeno che si chiama Bobby Paunescu, che è anche un produttore. Siccome Domenico Procacci non ha trovato in Italia nemmeno una lira per fare il film fino a quando non siamo partiti, ha avuto un appoggio produttivo in Francia e in Romania. Questo regista rumeno ci ha detto: guardate che noi in Romania siamo in grado di ricostruire degli ambienti, no? A dei costi che sono quelli rumeni, ma a dei livelli anche tecnici che sono quelli che avete voi. Noi siamo andati lì e abbiamo semplicemente valutato che era vero. Questa persona ci ha messo a disposizione la propria organizzazione, per cui il motivo fondamentale per cui abbiamo fatto il film lì è questo qui. Però non è secondario il motivo che vi ho detto prima, cioè il fatto di poter fare il film in pace, in tutta tranquillità. Perché è una cosa determinante poter lavorare in maniera tranquilla quando si gestisce una macchina così grande. Per esempio, la settimana di ripresa che abbiamo fatto a Genova abbiamo bloccato tutta la città, bloccando semplicemente una via, perché Genova è molto complessa da utilizzare, per girarci, è molto difficile. Il film è enorme, ha circa 8.000 comparse, una troupe di 150 persone e 130 attori, avremmo avuto un impatto sulla città micidiale e quindi... Questo è un terzo motivo per cui abbiamo fatto il film in Romania. Buonasera. Innanzitutto volevo fare complimenti per la sua opera, innanzitutto. E dopo volevo fare una domanda molto breve. Perché ha scelto proprio Elio Germano per la parte del giornalista? Perché io personalmente sono appassionato di cinema. Reputo Germano il più grande attore attualmente in Italia. E... Uno. È uno dei motivi perché ho visto il film al cinema, no perché ho visto il film, è perché ho visto il film al cinema e perché era interpretato da Elio. Poi che te devo offrire, che abbiamo detto prima? Quant'era? Beh, a me Elio Germano mi piace, però non nel senso in cui piace a Ospetec. Posso dire una cosa, comunque, quando lavori con Daniele ci rimetti sempre allora, aneddoto, perché ormai nell'altro film che avevamo fatto, Il passato una terra straniera, durante una colluttazione con Michele Riondino mi metto 3 punti sul labbro, perché durante la cosa ci siamo menati a un certo punto. Su questo praticamente il mio personaggio da processo si rompe un braccio e una gamba e poi c'ha delle strane ferite dietro la schiena, pare di oggetti elettrici. Invece diciamo nella scena è capitato che io mi sono rotto la testa, quindi il sangue che vedete nel film è il, sono 4 punti che ho messo in testa e ci tenevo a fare outing di questo proprio per... No, ogni tanto qualcuno si faceva male sul film perché appunto c'era qualche spalla lussata, qualche situazione anche nella fiction, diciamo. Io direi, visto che è mezzanotte, possiamo anche andare a chiudere perché sì, perché ora, perché sono 4 ore che molti di noi stanno qua, perché comunque è stato un bel incontro, è oggettivo, sorprende sentir dire certe cose, dovrebbe essere patrimonio nostro, da Daniele quanto da Elio quanto da Francesco, ma non perché sorprende, perché chissà chi siete voi come interlocutori, ma perché in questi 11 anni spesso e volentieri avremmo anche dovuto dirle noi, alcuni punti avremmo dovuti fissarli noi. L'abbiamo fatto, questa sera qualcosa è uscito, credo che sia abbastanza opportuno, abbiamo ricordato che ci sono... che c'è un processo che ci appartiene, che è molto importante, che andrà in Cassazione il 13 di luglio. C'è un altro processo che, con qualche curiosità, andremo a seguire, che è quello della Cassazione per la Diaz, quando con qualsiasi sarà la sentenza, comunque andrà tutto in prescrizione, il tarallucci e vino ce lo possiamo tranquillamente aspettare. Detto questo, è soltanto il primo di un appuntamento. Dobbiamo sicuramente ringraziare Daniele di aver riaperto una botola. Mo, se la botola è aperta, dovrebbe essere compito nostro non richiuderla spesso e volentieri, magari voltando le spalle e dando una botta con la mano. Quindi noi, come Forte... come dire, raccogliamo questo invito, chiaramente ne parleremo adesso in sede pilota, ci volete mettere in mezzo qua adesso a caldo, però sicuramente ci saranno le occasioni. Noi ringraziamo tanto Francesco Romeo, Elio Germano e Daniele Vicari, ringraziamo tutte e tutti voi che avete retto tutto questo tempo e niente, quindi ci diamo appuntamento alla prossima occasione, grazie a tutti.